passare al bar prima di tornare a casa a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Nazionale, creato apposta dal maestro Servio Cipriano. Non ci crederai, caro Parenzo, non ci crederai, ma questo qua è l'inno ufficiale del Movimento di Responsabilità Nazionale. No. Sì, sì, sì, è così. Sa un po' di sovietico, tra l'altro, un inno... Ti daranno, secondo me, la cattedra all'università di scilipotismo. Sì, sei uno dei massimi studiosi dei responsabili, tu in Italia. Io non conosco persone di pari cultura rispetto a questo movimento. Hai ragione, sono il filosofo dei responsabili. Sono il filosofo ufficiale dei responsabili. Come dire, l'esegeta, non so come altro. È come una altro cosa dire. Orribile questa lo so, hai ragione, è orribile naturalmente, però è l'inno Spero ufficiale. Che nessuno si arrabbia, è un giudizio. Mentre no. È adorabile, meno male che Silvia c'è, sì. È una musica orecchiabile da karaoke, bellissima, sì. Questa è immonda da un punto di vista melodico, proprio cacofonica. È stata presentata al primo congresso regionale, sì, del Movimento di Responsabilità Nazionale, che si è tenuto ad Aci Castello in provincia di Catania, dove naturalmente il grande protagonista è stato Mimmo Domenico Scilipoti, che ha tenuto un intervento di 56 minuti intervento. Senti un piccolo passaggio, abbiamo qui un ospite che ci sta aspettando e che credo sarà, non dico inorridito, però gli saranno già cascate le braccia, poi tu lo sai imitare benissimo, diciamo la verità, no? Però vabbè, lasciamo perdere, che adesso abbiamo l'originale qui e non vogliamo farti imitare. Ubi Maior, esattamente. Però cosa vuoi fare adesso? La radio del Sole 24 Ore fai ascoltare i 56 minuti di Scilipoti, no, è una cosa pazzesca, no, mi sembra. Non voglio farmi cacciare, anche se non mi caccerebbero lo stesso, per carità, no, però il rischio si correrebbe in questo caso, mandando 56 minuti di intervento di Scilipoti, anche perché penso che le persone dopo un po' spegnerebbero. Però uno dei passaggi principali dell'intervento di Scilipoti è stato questo: non è concepibile, ma te lo faccio sentire, non è concepibile non parlare in Italia. Via. Non è concepibile che in Italia non si parla più di prodotti di natura galenica, ma si parla soltanto di prodotti sotto il profilo dell'industrializzazione. Non è concepibile che non si affronti l'argomento degli autotrasportatori. Non è concepibile che non si ponga il problema dei farmacisti. Non è concepibile che si voglia in Italia le lobby delle multifarmaceutiche che vogliano creare l'informatore commerciale. Scilipoti ha il coraggio di dire queste cose. A rischio, con un grande sprezzo del pericolo, voglio farvi ascoltare un altro pezzo di Scilipoti. Siamo pronti alla morte. Questo è un pezzo che tu conosci perché lo hai vissuto sulla tua pelle, Parenzo. Lo hai vissuto sulla tua pelle. Sì. Ha parlato di lobby farmaceutiche, no? Sembrava un leader dell'opposizione, lui è in maggioranza. Sa che in Parlamento siede in maggioranza un signore che si chiama Angelucci, che sicuramente non si occupa di farfalle, ma si occupa di farmaci a buon diritto, ci voglio dire. Vabbè, di cliniche, in realtà di cliniche. Comunque, Scilipoti, siamo pronti alla morte. Lo sa, Martine, che gli interessa, Scilipoti. Siamo pronti alla morte per difendere i nostri figli, anche i tuoi, Parenzo, come ti ha detto una volta Scilipoti. Io provengo da una cultura che ha grande rispetto, ma è pronta e disponibile a difendere i propri figli sino alla morte. Cioè significa che qualcuno che vuole soffiare sul fuoco soffi, ma stia attento che anche noi sappiamo soffiare sul fuoco, perché i figli sono sacri e vanno difese. La democrazia deve essere democrazia per tutti e a nessuno è consentito uscire fuori dalle regole del gioco. E prima di ammorbare definitivamente il nostro ospite che ci sta aspettando, però non posso non mandare la telefonata con Berlusconi, perché non tutta la telefonata di Berlusconi, per carità, in cui è tornato sulle stesse cose, ma il modo in cui la introduce Scilipoti, ti prego, questo è un pezzo, una perla da tramandare, direi, ai posteri, che sicuramente deve trovare per forza posto in un libro di storia, perché altrimenti mi arrabbio con i nuovi storici che scriveranno i manuali tra 20-30 anni. Bisogna che questa cosa ci sia. Fai qualcosa anche tu, lo chiederemo fra poco al nostro ospite, che insomma di cultura se ne intende, non noi che siamo degli zotici, ma questa cosa ci deve essere. Senti, Scilipoti che introduce Berlusconi, ti prego. Pronto? Sì, presidente? Eccomi. Buongiorno, ciao, presidente. Domenico, come sta, presidente? Qui c'è tutto un bene, applauso, sì. E la nostra sigla che sta partendo è una sigla che il maestro Stelvio Cipriani ha fatto proprio per noi, e in suo onore, presidente. Prego. Grazie. Questa è la sigla che il maestro Stelvio Cipriani ha costituito, ha realizzato per noi e in suo onore. Per favore, più alta. Ci sente? Eccomi qua, certo. Grazie. Bella. Buona giornata, presidente, prego. Grazie, complimenti anche per la sigla. Grazie. La imporrò anche tra le canzoni del Bunga Bunga. Grazie. E siamo qui, questa è la Zanzara, caro Parenzo, 800 agghiacciante 800 24 00 24. Siamo col professor Massimo Cacciari, buonasera. Buonasera. Senta, ma scusi, ci perdoni per questo. Scusi, professor. No, grazie, io sento la radio poco, la televisione meno, ma queste cose, ha ragione lei, andrebbero davvero, ma senza scherzi, senza ironia. Nei libri di storia. Noi forse ci scherziamo un po' troppo, però questo qua è il movimento dei responsabili, che in sostanza sorregge la maggioranza, insomma, come dire. Vabbè, questo è, però abbiamo altre perle che faremo ascoltare più avanti, perché Scilipoti parla anche di D'Alema. Ho presentato molti più progetti di legge di D'Alema, ho fatto molto più di D'Alema, eccetera, eccetera. Senta, professor Cacciari, ma le volevo chiedere una cosa. Lei ha gettato un po' di pepe, di sale nella discussione politica in queste ultime ore con la questione di Montezemolo, dicendo a Radio Popolare che appronta una sua lista. No, guardi, a Radio Popolare si ascolta con attenzione. Io non ho fatto altro che ripetere ciò che vado dicendo da mesi, senza avere praticamente alcun rapporto diretto con Montezemolo. Cioè lei non ci ha mai parlato con Montezemolo? Sì, ci ho parlato, ovviamente, abbiamo avuto anche 2-3 momenti di incontro e confronto pubblico, come è noto, ma comunque io non ho notizie da lui da mesi. Sì. Il mio era semplicemente un ragionamento politico, cioè uno in generale mi auguro che personalità come la sua si impegnino direttamente, esplicitamente nel confronto politico in questo paese, perché credo che ciò aumenterebbe e arricchirebbe questa miserrima offerta politica di cui abbiamo avuto orrore, da voi una testimonianza con questi interventi dei responsabili. Quindi primo aspetto generale, per cui mi auguro che Montezemolo, diciamo così, faccia politica. Poi ritengo, dal mio punto di vista, che un'alternativa a Berlusconi oggi non si potrebbe facilmente trovare soltanto tra terzi poli o cosiddetti terzi poli e il Partito Democratico nella situazione in cui versa. Cioè ci vuole il famoso Papa Nero, no? Ci vuole un'offerta politica più ricca, più corrispondente a quelli che poi sono gli orientamenti di questo paese. Perché ormai, vedi, in questo paese il 40-50% delle persone è già lontano, si sta allontanando da ogni partecipazione, non per qualunquismo, ma perché davvero non è più rappresentato, e non è più rappresentato dai due poli. Senta, ma per quello che lei sa, dall'entourage di Montezemolo o da colloqui direttamente con Montezemolo, lui vuole creare una sua lista o vuole semplicemente diventare il leader di un accordo che ci sarà forse nel futuro? Adesso anche qui con lei vorrei tentare di spiegare quello come io la vedo, senza che questo significhi che io sto facendo il portavoce di nessuno, perché non l'ho mai fatto in vita mia e non lo farò neanche per Montezemolo. È semplicemente un ragionamento. Penso che Montezemolo sia abbastanza intelligente, anzi lo è sicuramente, se vuole entrare in politica in modo esplicito, di non candidarsi né con il terzo polo né andando ad offrire una sua disponibilità alla candidatura premier al centro-sinistra. Montezemolo, se scenderà in politica esplicitamente, lo farà da solo. Lo farà da solo organizzando una rete di liste civiche regionali, con personalità soprattutto del mondo produttivo, industriale, cioè il suo mondo ovviamente, oltre che forse alcune esponenti così di opinione pubblica eccetera, ma sostanzialmente personalità del suo mondo, e farà questo. Dopodiché è chiaro che Montezemolo, se scenderà in campo esplicitamente, lo farà per candidarsi premier, è ovvio, però saranno gli altri a doverglielo chiedere. E credo che qui si porrà il problema, soprattutto per quanto non tanto per quanto riguarda il PD, perché credo che il PD sarà il primo. Il PD sarà il primo a dire sì a Montezemolo. Sì, io penso che il PD poi alla fine sarà il primo, perché non ha altre chance se non questa. Cioè non ha altri leader spendibili? Mentre io penso che le difficoltà maggiori poi potranno esserci proprio nel terzo polo. Cioè lei dice che il PD non ha leader spendibili? No, ma lo sa benissimo. Ed è per questo che alla fine saranno i primi? Lo sa benissimo, mentre eventualmente nel terzo polo un forte pensiero potrebbe venire da Casini. Da Casini, perché chiaramente ha ambizioni... Ma giuste, perché legittime, perché certo, legittime, assolutamente. Del tutto ragionevole. Però come lei ha detto, anche quello di Casini è un nome che appartiene al passato, questo ce lo può dire? No, appartiene al passato, non vuoi essere equivocato, io credo che sia Casini, che Fini, che Rutelli sanno benissimo. Al di là dei giudizi di valore che si può dare sui personaggi, sanno benissimo che da soli non se la sfangano. E perché? Ma perché bene o male sono percepiti come appartenenti a una generazione politica che non possono passare per il nuovo, ha capito? Ecco tutto qua. È anche vero, ha torto, ha ragione, non possono passare per il nuovo. Un attimo solo, Parenzo, è anche vero, adesso abbiamo il traffico, è anche vero, come qualcuno ci scrive, che anche Montezemolo non è che sia per la politica, è vero, però ha quasi 65 anni. Però c'è questo, non sto dicendo che bene è così, sa? Io anzi da anni vado dicendo che sarebbe ora di uscirne da questa malattia infantile di ritenere che solo chi viene dalla società civile è in grado di fare una politica. Dunque è il male minore in questo momento Montezemolo. Però oggi, come oggi, la situazione è questa, se vogliamo avere un premier credibile, spendibile e potenzialmente davvero vittorioso, bisogna che questo, per quanto appoggiato appunto da forze politiche, venga da fuori, da altri leader, probabilmente provenga da un mondo non esplicitamente politico. Dunque è vero che è il male minore, in questo momento è il male minore, si può dire? No, neanche il male minore o il male maggiore. L'unica possibilità. È analisi, come devo dire? Sì, sì. Come diresti tu, Parenzo? Come diresti, Parenzo, imitando? È la cura per superare questa impasse in cui siamo dal 94 a oggi. Esatto. È la cura, mi sembra di capire. Parenzo, è la cura. Traffico, torniamo tra un attimo. Parliamo e facciamo queste riflessioni, non ce l'abbiamo con nessuno, non abbiamo odio negli occhi, ma abbiamo amore e siamo ben disponibili nel confrontarci con coloro i quali la pensano diversamente da noi, perché le pluralità vanno rispettate e sono una ricchezza. Allora quando noi diciamo non odio è una parola molto grande, è una parola molto difficile. Il partito dell'amore by Scilipoti. Bene, 800 24 00 24, professor Cacci... Come si dice in gergo, wrong or right, it's my country. hai capito? No, vabbè, traduci però. Buono o cattivo, giusto, o sbagliato, giusto o sbagliato, è il mio paese. Che bisogna fare? Qui siamo e qui dobbiamo vivere. Dunque dobbiamo sentire anche questa Repubblica di Topolino. Dobbiamo sentire anche queste cose. Di Topolino, neanche mia figlia ascolta queste musichette. Spero di no, assolutamente. Senta, professor Cacciari, ma i rapporti tra Berlusconi e Montezemolo quali sono? Se lei ci può illuminare da questo punto di vista, perché una volta Berlusconi, ricordo che lo voleva addirittura candidare ministro, poi invece evidentemente i giudizi di Montezemolo espressi. Berlusconi ne voleva candidare di ministro. Anche Di Pietro, esattamente, stavo appunto dicendo. È iniziata con la candidatura di Di Pietro, poi voleva candidare la Marcegaglia, poi sicuramente aveva offerto anche a Montezemolo di fare il ministro, non c'è dubbio alcuno. E così via, cioè Berlusconi seduce, no? Quello che pensa Montezemolo dell'esperienza di governo di Berlusconi? Beh, l'ha detto, mi pare, esplicitamente in più occasioni, in modo molto netto e duro recentemente. Pensa quello che pensano tutte le persone ragionevoli di questo paese, che non ha fatto nessuna delle riforme per le quali era stato votato nel 94. Secondo lei, fossero, basti pensare alla questione così centrale in tutte le politiche confindustriali, in tutti i progetti confindustriali e delle liberalizzazioni, non è stato fatto assolutamente niente. Senta, ma chi è secondo lei nel PD che potrebbe lavorare con Montezemolo? Cioè, anche lì si creerà una spaccatura, no? Ma guardi, per quanto possa conoscere le personalità del PD, io penso che per un verso o per l'altro sia persone come Bersani che come Veltroni possono lavorare benissimo con Montezemolo, anche perché sono persone che sanno riconoscere una premiership, non loro. Più difficile riconoscere uno migliore di sé da parte di gente come D'Alema. Più difficile D'Alema, certo. Più difficile. Dunque da D'Alema potrebbero arrivare ostacoli da questo punto. No, ma non credo. Ma le ripeto, da parte del PD alla fine, se c'è una candidatura autonoma di Montezemolo, poi alla fine ostacoli non ce ne sono. Ma il PD è finita come esperienza? Io lo dico da tempo, ma lo dico senza nessuna, dico da un certo punto di vista con grande rimpianto, perché ci ho lavorato 15 anni per farlo nascere. Poi da questo punto di vista Montezemolo potrebbe salvare il PD, diciamo, come esperienza? No, che c'entra col PD Montezemolo? Diceva Parenzo prima, Montezemolo è la cura per l'opposizione attuale italiana, sia di centrosinistra che di centrodestra, che da sola difficilmente batterebbe Berlusconi. Dunque alla fine fare questa riflessione, che dovrebbe decidersi al più presto, perché sennò questa politica costruita sull'annuncio e sulla delusione che nel paese c'è, che Montezemolo ben interpreta, e se non si realizza, se non va oltre questa fondazione che lui ha creato, questo think tank di elaborazione, queste liste civiche sono pronte già, si stanno formando? Vede, io sono d'accordo, insomma. Si deve muovere, bisogna dargli un passato. Ho anche suscitato qualche malumore da parte di Montezemolo e di quelli a lui più vicini, dicendo anch'io sono convinto che a questo punto sarebbe meglio un'esplicita presa di posizione. E perché non lo fa secondo lei? Perché appunto, perché teme di stare, come dicevo nell'intervista a Radio Popolare, teme ed è giustificato questo timore di stare 2 anni a bagnomaria, perché si immagini il Libero, il Giornale, eccetera, e i vari telegiornali berlusconiani che cose in 2 anni possono inventare, cioè macchine del fango varie, cosiddette Montezemolo, si figuri. Cioè farebbero il tirassegno? Farebbero il tirassegno, è evidente. Oggi, tra l'altro, da qualche parte ho letto un senatore, anche piuttosto importante, se non è Casoli, se non sbaglio, del PDL, dice prima o poi dovrà rendere conto di qualche spreco anche lui, scheletri in armadio. Preventivo, medicina preventiva. Ma lei potrebbe far parte della squadra? Ho già detto che io ritengo che, appunto, essendo questa la cura, e avendo già fatto più volte, tentato di fare la Croce Rossina a cui sparavano dietro, poi la farei volentieri anche questa volta, per quanto mi riguarda. Con che ruolo, per esempio? Come se la immagina? Dare una mano a costruire queste reti civiche laddove ho più, posso posso avere più influenze, posso conoscere più persone, non so, naturalmente un ruolo di governo lei se lo immagina? Nord, eh? un ruolo di governo per lei se lo immagina? Ma ha voglia di parlare di questo. No, ma per dire, da qui a un governo Montezemolo ce ne passa di acqua sotto i ponti. Fini invece con Montezemolo sarebbe pronto? Fini sarebbe pronto ad accettare una leadership di Montezemolo? Veda, è molto adesso proprio volendo ragionare, insomma, è molto complicata la cosa, molto complicata, perché Fini, dopo il generoso tentativo di spallata, è obiettivamente in grosse difficoltà. Esatto. Finito, perché è una persona ancora relativamente giovane e capace, quindi non ritengo affatto finito, ma certo è in difficoltà. No, l'esperienza del partito, cioè a chi si rivolge, a chi parla. E poi lui, è chiaro che queste difficoltà diventerebbero travolgenti se dovesse a questo punto esplicitamente fare una scelta di opposizione che guarda necessariamente a centro-sinistra. Certo. Deve mantenere questa identità di destra, che non è certo quella di Montezemolo. Quindi io ritengo che le difficoltà, per quello le dicevo, le difficoltà maggiori vengono dal terzo polo. Uno, perché nel terzo polo c'è un leader possibilissimo, che è Casini. Certo. E due, che c'è un leader che non può venir meno ad una scelta esplicita di destra europea. Dunque Fini potrebbe sfilarsi, insomma, da questo. Ma poi alla fine come fa a sfilarsi, insomma, anche lui poi non si sfilerebbe, però andrebbe incontro a grandissime difficoltà. Senta, e invece qualcuno ha cominciato a giocare con i ministri di Montezemolo un po' troppo presto. Sì, qualcuno ha cominciato già a giocare con i ministri di Montezemolo, Della Valle, grande amico di Montezemolo, dove, come, perché, vabbè, ma insomma, io sono convinto come lei che in questo momento a livello di leadership e di carisma è l'unica alternativa possibile a Berlusconi, o no? Lei condivide? Beh, quello che ho detto finora. Bene, grazie. Grazie professor. A voi, buon lavoro. Arrivederci, professor. Ciao, poi. David, come siamo messi? Come siamo messi benissimo, siamo messi. Abbiamo iniziato di gran carriera con Scilipoti, con Cacciari, per carità, non voleva costare. Poi, meravigliosa, è stata trasmissione, forse te l'ho già detto, è una bella trasmissione, perché è bella anche l'idea di farvi ascoltare già. Non è male. Ma è bello anche di aver fatto ascoltare al professor Cacciari Scilipoti, cioè mettere insieme, quello è meraviglioso, è stato. È bella questa trasmissione, è bella. Una bella idea, una bella trasmissione, hai fatto un bel format. Ci sentiamo dopo alle 19:15. Eccoci qui, 19:18, caro Parenzo, 800 24 00 24. Questa è la Zanzara, su questo non c'è alcun dubbio. E allora, siccome sono passati già 18 minuti oltre le 19 ed è già tardi, direi, no? Tardi, sì, dovremmo necessariamente mandare i titoli del TG diretto da Bianca Berlinguer. Berlusconi a Tunisi per rimpatri e controlli, ma l'agenzia tunisina avverte nessun accordo. Maroni tornerà domani per nuovi colloqui. Trasferimenti da Lampedusa, navi verso Catania, Napoli, Taranto, ma non al nord. Domani altre 1000 a Manduria, primi sbarchi in Sardegna. E resta la tensione tra PDL e Lega, il Carroccio è per la linea dura sui rimpatri e ora propone anche l'esercito volontario regionale. Processo Media Trade, la Chiusa chiede il rinvio a giudizio di Berlusconi, socio occulto anche da Premier. Domani il voto sul conflitto di attribuzione, il PDL vuole una stretta sulle intercettazioni, le opposizioni in piazza. L'Italia riconosce come legittimo il governo provvisorio libico di Bengasi, duri scontri a Misurata e Brega. I giovani contro la precarietà, il nostro tempo è adesso, non possiamo più aspettare, sabato in piazza per chiedere opportunità e diritti. Lui fa i galanti con tutte quante, ci prova a destra, ci prova a sinistra, le paga il caffè se il marito non c'è e invita a cena la rossa e la bruna e offre una rosa alla bella vanitosa e porta stato un fine settimana di barzellette, diciamo la verità. Un paio recuperate dal weekend by Berlusconi. Sicuramente l'avrei già letta, l'avrei già sentita, no? Sì, Parenzo? Sì, tantie, anche nelle caserme di Cuneo, dove fanno. Allora, dove la prima è stata raccontata, sì, è stata raccontata ad alcuni parlamentari del PDL ed è stata raccontata anche davanti ad alcuni esponenti dei comitati per contro la demolizione delle case abusive, sempre della Campania, perché esistono, come sai, abbiamo già ampiamente commentato la scorsa settimana, dei comitati contro l'abbattimento delle case abusive, che sembrerebbe una follia, cioè uno costruisce una casa abusiva, poi fa un comitato. Già non è in regola, e in più fa il comitato per mantenere l'irregolarità, che è una roba solo in Italia. E cosa ulteriormente paradossale, viene sentito, ospitato dal Presidente del Consiglio alla Camera tramite alcuni deputati campani. Vabbè, comunque Berlusconi davanti a questi signori ha raccontato questa storiella. Un signore tutto in napoletano, con lui che gesticolava, che raccontava, è durata un quarto d'ora. Un signore si reca all'ufficio brevetti. Qui Berlusconi imita un gruppo di sfaccendati, così la racconta Repubblica, uscieri napoletani che indicano all'inventore Ocesso. Ma il protagonista ha davvero un prodotto inimitabile. Arriva allo sportello giusto, dove trova altri annoiati dipendenti che lo sottovalutano, lo prendono in giro, perdono un po' di tempo. Qual è la sua invenzione? Una mela, risponde con la vocina chioccia il Berlusconi Archimede, suscitando le risate appunto dei primi cittadini di quel luoghi là, cioè della Campania. Si può brevettare una mela? Altri secondi preziosi vengono usati per raccontare le beffe degli impiegati, il loro darsi di gomito. Ma questa è una mela speciale, insiste il signore parlando in falsetto. Speciale perché? Perché sa di, io lo devo dire, perché sa di fica, dice Berlusconi. Pausa scenica, tempi comici da autodidatta, siamo vicini al dunque. Un uomo dell'ufficio brevetti afferra la mela e la assaggia. Berlusconi mima il morso mentre con la destra tiene un frutto immaginario, fa l'espressione schifata, poi la faccia di chi protesta. Ma sa di culo, proprio così, Berlusconi allunga il braccio, ruota la mano che impugna la mela, arriva al finale usando il voi come si fa a Napoli, e giratela. Questa è la barzelletta, devo dire, riportata già in un libro di Paolo Guzzanti, La mela brevettata. Per cui è una vecchia barzelletta di Berlusconi che Berlusconi poi ha riadattato mimandola, sceneggiandola davanti ad alcuni parlamentari sindaci napoletani. Invece la barzelletta che molti di voi avranno ascoltato online è la barzelletta raccontata da Berlusconi molto breve, sabato notte, dopo essere uscito dal ristorante la serata della vittoria nel derby. Avete sentito il sondaggio che hanno fatto stamattina? No, quale? Non dobbiamo fare questo sondaggio. Il sondaggio l'hanno fatto le ragazze da 20 a 30 anni e hanno domandato: fareste l'amore con Berlusconi, o presidente anzi, e il 33% ha risposto sì, il 77% ha risposto ancora. Anche questo non è da scrivere. Anche questa fa parte del repertorio storico di Berlusconi ed era stata prima detta in privato e poi ripetuta in pubblico. Ora, per carità, si possono dire tante cose sulla barzelletta di Berlusconi, però cioè, Repubblica la prende troppo sul serio questa storia delle barzellette. Senti il direttore Ezio Mauro che dice: barzellette per distrarre la gente dai processi. Ed è indicativo vedere tutta la strategia di distrazione di massa che il Presidente del Consiglio sta usando, tanto con questo clima artificiale di allegria, di barzellette che sta raccontando, che è completamente fuori dal contesto drammatico dei problemi che deve affrontare. Barzellette per distrarre dai processi. Ti sento umilmente dal direttore di Repubblica. No, ma non c'è bisogno di aggiungere umilmente. Ti no, senti, il mio parere è che voglio dire, Berlusconi lo significa per le cose che non fa, per la rivoluzione liberale mancata, non per le barzellette. Io però rivoglio l'inno del Movimento di Responsabilità Nazionale. So che la cosa ti ammorba, la cosa ti. No, ma io ormai so che tu sei un. Io sono ormai uno studioso, sì. Uno studioso dello scilipotismo. Scilipoti, ho fatto più di D'Alema. Un parlamentare come Scilipoti, che a differenza di D'Alema, e non me ne vogliono quelli che sono di sinistra all'interno dell'aula, ha fatto in 2 anni e mezzo di attività parlamentare 32 proposte di legge di primo firma, ha fatto 150 interrogazioni parlamentari, è intervenuto sul territorio per ben 240 volte, ha fatto conferenze all'estero per 15 volte a spese proprie e di tasca propria. Diciamo, il parlamentare che valuta, diciamo, l'attività solo per quello che riguarda le proposte di legge, da questo punto di vista sarebbe facile, basta farsele scrivere anche le più disparate, anche le più folli, 10 al giorno. Poi ha fatto 15 conferenze pagate in tasca sua. Non è che si va a peso, insomma. Ma... E chi se ne frega? Ma cos'è? Senti questa cosa, stiamo con Berlusconi perché vive la politica diversamente dagli altri. Senti. Sapete perché abbiamo trovato l'alleato nel presidente Berlusconi? Perché 18 anni fa il presidente Berlusconi ha messo in moto un meccanismo che si chiamava meccanismo diverso di vedere la politica. Un meccanismo diverso che vedeva effettivamente l'operosità delle cose da farsi e non il linguaggio del politichese e non il linguaggio della confusione. Poi ha dette altre, ho lasciato il lavoro per fare il parlamentare, e abbiamo amore e non odio negli occhi, ma questo l'abbiamo già ascoltato, affronta di petto la lobby farmaceutica, e abbiamo sentito il pezzo meraviglioso, non è concepibile non parlare oggi di prodotti galenici e di autotrasportatori, ho fatto più di D'Alema, c'è un'altra cosa, consulente del Brasile e di Bahia, che non ho capito bene, fatemi sentire. Io sono stato il consulente ufficiale di un governo che oggi è punto di riferimento dell'economia mondiale, il paese che non ha debito pubblico, che si chiama, e molti di voi non lo sanno, il Brasile. Io sono stato per 2 anni coordinatore del ministro della Sanità dello Stato di Bahia per varare una legge che parlava di riforma e di tutela degli interessi dell'essere vivente, che era le discipline olistiche non convenzionali. Ma queste cose i giornalisti non l'hanno detto. Hai capito, Parenzo? Queste cose non le sai tu, eh? No, ma voglio dire, consulente del Brasile del governo di Bahia. A parte che in questo momento, per i rapporti che ci sono tra Italia e Brasile, per note vicende, essere consulente del governo brasiliano, forse dovrebbe mandare una letterina a Frattini specificando questa cosa, ma comunque... Insomma. Ma mi viene da ridere! E del governo di Bahia, perché? Perché consulente... Una risata lo seppellirà, Porello. Però Berlusconi gli ha promesso di creare un dipartimento delle medicine non convenzionali, perché poi naturalmente Berlusconi promette tutto a tutti e dunque creerà un dipartimento per le medicine non convenzionali. Via. Ringrazio Domenico anche per le due proposte che ha fatto per istituire 2 nuovi dipartimenti ministeriali che dovranno occuparsi della conciliazione del contenzioso bancario, l'uno, e delle medicine non convenzionali, ovvero dei farmaci omeopatici, l'altro. Non vedo ostacoli rilevanti affinché si cominci a discutere su queste proposte con il dovuto scambio di opinioni con i ministri competenti. Beh, certo, Berlusconi da questo punto di vista non vede mai ostacoli nella no. creazione di un dipartimento per le medicine non convenzionali diretto dall'onorevole Mimmo Scilipoti. Va bene. Maurizio da Bari, buonasera signor Maurizio. Buonasera Cruciani. Dica. Io in realtà più che un intervento vorrei fare una preghiera in qualità di suo ascoltatore, mi seguo sempre con interesse. Io devo fare molti chilometri ancora sì. con la macchina personale. Mi fa la cortesia, o ci toglie quella ripirante marcia funebre di Scilipoti o ci risparmia le minchiate di Scilipoti. Scegliere una delle due cose, ci risparmi una. Adesso facciamo scegliere l'apparenza dopo la borsa. Lei ha ragione, Maurizio, ma come dire, era per sentire le cose che dice Scilipoti necessitavamo di una base. E quale base migliore dell'inno composto, peraltro, da una persona che è del 37 ed è un musicista, compositore italiano molto conosciuto che si chiama Stelvio Cipriani e che più tardi, ma le assicuro più tardi, magari sarà tornato a casa, avremo i nostri microfoni e vogliamo capire come è possibile che ha composto un inno per il movimento di responsabilità nazionale, detto anche Ying Yang, o sbaglio? Glielo chieda perché siamo tutti molto curiosi. A tra poco. L'ambulanza va mentre la città finalmente sa che muore. perché ci sono un po' di parlamentari che hanno fatto questo meccanismo, dice ma abbiamo cambiato idea. Scilipoti, questo profondo filosofo contemporaneo, dice noi abbiamo cambiato idea perché abbiamo un profondo travaglio interno. Irresponsabile. E tanta vitamina in più. Non è concepibile che in Italia non si parla più di prodotti di natura galenica, ma si parla soltanto di prodotti sotto il profilo dell'industrializzazione. Non è concepibile che non si affronti l'argomento degli autotrasportatori. Che mi resterà? Ma chi è sto Filippote? Io non so chi è sto Filippote. L'ambulanza. Beh, devo dire che alla fine donna Assunta Almirante è quella che va al, no? La giusta chiosa di donna Assunta Almirante. Beppe da Reggio Emilia, 800 24 00 24. Buonasera dottor Cruciani, buonasera Parenzo. Dica. Io sono di Reggio Emilia e quando mi dicono che Montezemolo principalmente, cioè logicamente anche del PD diciamo, sinistra, mi dicono che noi dovremmo abbracciare Montezemolo come se fosse il nostro salvatore della patria. Ma forse noi ci dimentichiamo, abbiamo la memoria corta, io ho 36 anni e non ce l'ho tanta corta. Cioè fino a 5 anni fa era il nostro benemerito presidente di Confindustria, se non erro. Non è che eravamo tanto così amici, mi capisce cosa voglio dire? E non so neanche se lui si vorrà candidare con noi. Ma con voi chi? Col centro-sinistra, però... dice? Non è che se uno è stato presidente di Confindustria non, era nemico della perché, sinistra? Sa perché? Perché dico questo, lui diciamo che è d'indole un vincente e adesso purtroppo noi non siamo il cavallo vincente. Ce lo dobbiamo mettere in testa finché rincorriamo tutti meno che quelli che abbiamo noi. Troviamone uno tra di noi, faccia la nostra proposta di politica. Secondo Cacciari il Partito Democratico, come avete sentito, non ha leader spendibili. Non li ha perché se continuiamo ad andare dietro a Repubblica, come facciamo a trovare un nostro leader? Ce lo dobbiamo dire in faccia prima o poi, o aspetteremo altri 15 anni a vedere chi verrà il figlio di Berlusconi, lo zio di Berlusconi? Poi alla fine lui farà questo, alla fine lo so, Berlusconi se lo porterà dalle sue parti. Chi? E se lo chi? Metterà di nuovo il nostro Luca Cordero di Montezemolo. Che significa se lo porterà dalle sue parti? Non ho capito. Non vorrei che lo porterà dalle parti di Berlusconi, diciamo sulla destra. Alla fine l'appoggerà con un programma PDL, Lega. Ma no, scusi, Beppe, non ho capito nulla, scusi Beppe. Alla fine che cosa succederà? Che Montezemolo si candiderà col centrodestra. Non mi pare con questo centrodestra qui non mi pare. Ma no, con questo perché Berlusconi non può mica avere 100 anni, tra un po' dovrà mollare anche lui. Secondo lei alla fine quando molla Berlusconi invece Montezemolo sarà un leader spendibile, bravo, per il centrodestra, ho capito. Vedrà che poi mi diceva, beh, con la Lega anche là, con Bossi la vedo difficile la convivenza tra Montezemolo e Bossi. Ma lui anche lui è uno del nord, è uno che ci dovrà avere a che fare, ci ha avuto a che fare. Ma lei è un elettore del Partito Democratico, Beppe? Io sì, è quello che mi fa paura, che noi andiamo dietro ancora a questa gente qui. Per cui lei non lo vuole Montezemolo, lei non ci andrebbe con Montezemolo. Ma secondo me molti a sinistra non è che lo vedono questo gran salvatore di noi a sinistra. Ho capito, grazie. Paolo, provincia di Milano, buonasera. Sì, pronto, buonasera. Dica. Volevo intervenire sulle barzellette Berlusconi. Dica Paolo, siamo qui. Non ci trovo nulla di così di cattivo raccontare le barzellette, anzi un uomo politico che ha soprattutto sfrutta le barzellette per farsi conoscere denota lo spessore politico. Ma che vuol dire denota lo spessore politico? Non la differenza bene. La differenza anche di comunicazione tra i politici, che a posto di attirare monetine e urlare invece si fa conoscere anche attraverso le barzellette, secondo me. Beh, non è tra tirare le monetine e urlare e dire le barzellette c'è un mare magnum. Ma quali politici hanno tirato le monetine poi, scusa? Ma ne hanno fatte di ogni, anche all'interno del Parlamento. Sì, però Paolo, ripeto, tra il tiro delle monetine, che peraltro magari qualcuno ha ispirato, ma non mi pare che ci sia mai stato nessun politico, per fortuna, pizzicato a tirare le monetine, almeno negli ultimi 15-20 anni. Tesserine, monetine, qualsiasi cosa. Vabbè, ma insomma ho capito quello che lei vuole dire. Tra questo ne fanno di ogni, però voglio dire, meglio raccontare una barzelletta che che fare diciamo. Ma no, non sarebbe meglio non raccontare, non sarebbe meglio non raccontarle, almeno in pubblico? Cioè, c'è anche questa possibilità, non è che uno per forza le debba raccontare. Nessuno è obbligato ad ascoltarle, però voglio dire, l'importante è che faccia il suo lavoro. Poi no, ma dire, infatti nessuno, per carità, indipendentemente da che cosa racconta, poi basta che non offenda nessuno. Beh, diciamo che la barzelletta quella là raccontata ai sindaci napoletani della mela proprio non è il massimo della prenderà le responsabilità di quello. Io non sono della finezza, ecco, però, dire, però non ci vedo nulla di che, insomma, mi sembra una no cosa... Ma nemmeno io in realtà sulle barzellette non è chiaro, cioè, la cifra del buon gusto secondo me si è un po' perso quel rispetto alla carica che ricopre. Aspetti, se parlate in due non si sente. Paolo, prego, però stiamo parlando della di che cosa? Sì, dica. No, dico, piuttosto di vedere un politico che si sgola, inveisce contro chissà chi o chissà cosa. Ma guardi che Berlusconi fa anche quello, le voglio far osservare. Sì, come... va bene, ma che racconti anche una barzelletta mi sembra un uomo, cioè non normale, chi non le racconta, chi se ne frega. No, ma infatti hanno fatto anche un libro sulle barzellette di Berlusconi, figuriamoci. Lo io stesso... non sono pro Berlusconi, guardi, glielo dico proprio. No, ma guardi, ma come ha notato, non è che noi mettendo le barzellette di Berlusconi siamo lì a dire che indignazione, che scandalo, che vergogna. Non facciamo né quello né diciamo che no, è un modo per coprire chissà che cosa, quello è veramente ridicolo. Cioè, Berlusconi ha sempre fatto così, diciamo che questo ha accentuato il raccontare i barzelletti in pubblico negli ultimi anni, su questo non c'è dubbio. Sì, questo è vero. Prima le barzellette di Berlusconi le raccontava, diciamo che messo fuori dalla macchina a raccontare barzellette è una cosa degli ultimi anni. Grazie. Massimo dalla provincia di Caserta, buonasera. Buonasera, buonasera dottor Piccione. Guarda, io volevo intervenire in merito al discorso dei Cilipoti. Cioè, io non so, mi sembra che Antonio Albanese abbia nel suo film Qualunque Mente, no? Penso che l'ha avuto modo di vederlo. Che succede? Non è che tutto è limitazione di qualunque, cioè non è che tutti i personaggi politici possono entrare in quella categoria. Secondo me è molto più vicino il personaggio di Cilipoti al personaggio di Cettola Qualunque, che piuttosto quello che si è detto magari quando è uscito, che poteva richiamare qualche personaggio più noto di Cilipoti. Secondo me è proprio, mi sembra che come se avesse fatto il cast Cilipoti sia uno di quelli che non si è stato scelto per fare l'attore e sia stato abbia riportato, diciamo, il continuo e prosieguo, diciamo, del film ha fatto nella realtà sostanzialmente, perché il discorso che abbiamo ascoltato, insomma, mi sembra proprio il prosieguo, sembrava di stare in sala al cinema ad ascoltare, insomma, il tizio che va alla piazzetta del paese piuttosto che nella l'effetto è quello. Poi noi siamo lì ad aspettare che queste proposte fantastiche di Cilipoti per quello che riguarda i prodotti galenici, gli autotrasportatori, l'agopuntura, eccetera eccetera, siamo pronti alla morte per difendere i nostri figli dalle multinazionali del farmaco, eccetera eccetera, naturalmente trovino attuazione piena in Parlamento con tanto di onori, di fanfara. Dove andiamo? Direi a Roma. Mario, buonasera. Buonasera Cruciani. Buonasera Parenzo. Io volevo parlare di due quesiti abbastanza importanti stasera. Il primo è Cilipoti, che definirei un uomo, un perché. E sono d'accordo con Parenzo che una risata lo seppellirà e spero che questo accada quanto prima. Adesso lasci campare le persone in pace, dal punto di vista non è che è il simbolo di tutti i mali Cilipoti, cioè è un deputato su cui noi ogni tanto ci divertiamo, che invitiamo, che è diventato quasi un nostro amico, direi. Parenzo, direi, no? Oserei dire. Adesso io non esagererei su questo per quanto mi riguarda, però indubbiamente è un grande compagno di viaggio in questa avventura che è la Zanzara. Sì, un compagno di viaggio e direi anche un dispensatore di emozioni, di risate, di altro. Questo, risate sì, emozioni, io mi emoziono con altri mezzi, diciamo, però va bene. Ma perché questi discorsi di Cilipoti ad Aci Castello non ti hanno un po' emozionato? Sentivi, io quando li ho sentiti mi divertivo come un bambino. Mi fanno morire da ridere. È una cosa ridere, fantastica. Io vorrei conoscere uno a uno le persone che sono andate lì ad ascoltare 50 minuti di intervento. Ho l'elenco. Vedi l'elenco. Che c'è una ragione se uno è direttorissimo. Cioè, la ragione l'elenco. Il uno che studia, c'era, che c'era tra gli altri, c'erano tra c'è gli altri. Regole. Bruno Cesario, presidente del Movimento di Responsabilità Nazionale. Domenico Scilipoti, questo è chiaro. Saverio Romano, ministro dell'Agricoltura. Rocco Crimi, sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo sport. Stelvio Cipriani, è tra l'altro il compositore, è diventato anche presidente onorario del Movimento di Responsabilità Nazionale. No. Sì, sì, sì, e tante altre cose. Ci sono delle cose. Si scoprono delle cose fantastiche. Mario, allora concluda, che poi abbiamo un ospite che preme. Sì, no, il fatto che faccia divertire non è una cosa bella, che già abbiamo il nostro presidente del Consiglio che fa le barzellette. Qui abbiamo bisogno di ben altro, dottor Cruciani. Comunque, vabbè, Scilipoti ormai si commenta, c'è da solo. Ma voi quando ascoltate la Zanzara non dovete pensare che vi dovete stare lì per forza a indignarvi, certo, e arrabbiarvi. Rilassare, prendere una boccata d'aria, certo, respirare. Certo, Cruciani, ma io non parlavo degli interventi che ha lì, gli interventi che ha sul palco, che dovrebbe fare per gli italiani, non dovrebbe dire queste sciocchezze. Insomma, questa è una delle tante vergogne che purtroppo mi ha messo io presidente del Consiglio. Poi allora un'altra questione, e anche questa è molto importante, veloce, sì. Montezemolo. Allora, io non sono pienamente d'accordo con i colleghi, Montezemolo può essere un'alternativa a Berlusconi. Allora, che cosa vogliamo fare? Faccia capire lei. Dobbiamo riconsegnare il paese in mano a un industriale, in mano a una persona che può avere le mani in pasta dappertutto. Dove era questa persona gli ultimi 20 anni? Dove? Una persona che ha delocalizzato la costruzione della Piaggio in India. Delocalizzare mica è un crimine, scusi, Mario. Cioè, non è che... Io ho capito, ma sicuramente non ha fatto tanto gli interessi degli italiani se ha delocalizzato. A parte che la Piaggio non c'entra niente. Comunque, Mario. Vabbè, comunque il discorso che per me. Quanto prima si leva da mezzo il discorso di Montezemolo è meglio, perché a finire che questo fa un altro, si mette su un palco, sì, a promettere un'altra volta, gli italiani si appellano di nuovo a sciocchezze, perché qui purtroppo si vive per strada, qui la situazione per strada è drammatica, sale un miliardario sul palco e si pensa che questa persona possa fare gli lei critica il fatto che si ripropone in sostanza una persona che ha un groviglio di problemi simile a quello di Berlusconi. Benissimo, grazie. 19:45 800 24 00 24, nostro ospite. Beh, inauguriamo in questo modo, anche se avremo modo di tornarci più avanti, caro Parenzo, sì, una serie di personaggi che saranno al centro dell'attenzione nei prossimi 20 giorni, forse anche di più, un mese e mezzo. Candidato per il centro-sinistra a diventare sindaco di Milano, Giuliano Pisapia, avvocato, buonasera. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori, oltre che all'amico che è presente, non so se è lì in studio. Sono in giro. Avvocato Pisapia, qui è Parenzo, è una sorta di trottola che vaga per l'Italia, ogni tanto esplode. Oggi si trova ad Assago, negli studi di Lombardia Channel, dove credo lei poi nei suoi tour elettorali avrà modo di andare nuovamente. Senta, avvocato. Ma lui si diverte, secondo me, a girare. Ma lui si diverte, sì. Diciamo, la moglie è meno contenta, come dire. Però, lei che ne sa, Cruciani, scusi, però vabbè, questo lo vediamo dopo. No, hai ragione. Mi sono introdotto nella tua vita privata in maniera un po' troppo invasiva, hai ragione. Allora, avvocato Pisapia, le voglio chiedere una cosa. Lei, che è stato politico di Rifondazione Comunista, eccetera, eccetera, adesso da qualche mese ha iniziato questa campagna elettorale per Milano dopo aver vinto le primarie, lei come vede l'ipotesi che Montezemolo possa fare il leader di un futuro polo, che ci sia, che ne so, PD, terzo polo, eccetera, eccetera? Insomma, Montezemolo in politica, come lo vede lei? Montezemolo in politica lo vedo bene dal suo punto di vista, che è diverso dal mio, nel senso che è evidente che da tempo che vuole entrare in politica, vuole avere un ruolo politico. Perché non si decide, finanza, secondo lei? Non vedo come il PD possa appoggiare una ipotesi Montezemolo, se non per un brevissimo periodo in un governo tecnico, ma non è sicuramente questa, secondo me, la prospettiva di Montezemolo, perché perderebbe metà dei suoi elettori. Quindi... Dunque il PD dovrebbe essere, secondo lei, anche se lei non è un iscritto al Partito Democratico, dovrebbe essere un avversario di Montezemolo? No, userei un termine diverso, un partito che si confronta anche con un terzo polo che sarebbe molto utile per l'Italia che crescesse, ma non sicuramente fare l'unità programmatica con Montezemolo, anche perché sarebbe un po' arduo trovare molti punti di convergenza se non in un momento di emergenza e quindi un governo tecnico. Ho capito. Senta, lei invece dal punto di vista politico si sente un avversario di Montezemolo, sempre politicamente, no, è ovvio, di Montezemolo? Sì, io ho una visione diversa dello sviluppo del paese, su molti temi probabilmente ci troveremo in disaccordo, su molti altri ci potrebbe essere anche una condivisione parziale. Quello che è certo che però potrebbe ritornare a esserci in Italia una buona politica, perché in questo periodo la buona politica manca molto. Allora forse è una persona che ragiona, una persona che non cerca la rissa e soprattutto una persona che forse non fa come, visto che ho sentito che avete parlato molto di Scilipoti, sì. Qui non vorrei continuare a parlare però, salvo che voi non lo decidiate. No, Scilipoti. È uno che è sempre stato al centro dello schieramento politico e credo che continuerà a fare quello. Allora, caro Parenzo, mi dai una tua previsione su come finisce a Milano la situazione al primo turno, per esempio? Dammi una tua previsione, tu che sei più esperto di me di Milano, anche se io ci abito ormai da 11-12 anni. No, tu ci abiti, io ci abito da 10 anni, io poi sono un po' partigiano, quindi sai, questo devo denunciare ai tuoi radioascoltatori, non voto a Milano, però sono un po' partigiano perché provo simpatia per la candidatura di Pisapia. Però credo che, se fare un'analisi così un po' asettica, che sicuramente la Moratti non vincerà il primo turno, penso che possa andare al ballottaggio e che quindi si possa aprire una partita curiosa, ecco, per Milano. Mettiamo che al ballottaggio vada lei e la Moratti, no? Pisapia, lei se lo augura naturalmente, no? Non credo che pensi di vincere al primo turno, sbaglio? No, non credo di vincere il primo turno. Benissimo. Mi auguro, anche, lo danno tutti per certo ormai, quindi lo do per scontato. E che lei andrà al secondo turno invece non solo mi auguro, ma credo ci siano buone probabilità che possa vincere io. Vabbè, questo naturalmente lei se lo auguro in quanto candidato, però insomma lei dice al primo turno è impossibile che io vinco. Senta una cosa, ma se dovesse succedere, lei chiederebbe per esempio l'appoggio del terzo polo, di Palmeri, eccetera, eccetera? No, però non lo chiederebbe. Non chiederei, però sono assolutamente convinto che buona parte degli elettori del terzo polo sono più vicini alla mia posizione che a quelle della Moratti. Beh, addirittura. Sì, anche perché succederà in questa campagna elettorale che loro litigheranno molto più tra di loro che con me, proprio perché loro si contendono in questo momento parte degli stessi, dello stesso elettorato, e questo finirà a far sì che lo scontro sarà più tra di loro e quindi sarà ben difficile che Palmieri, che persona peraltro che però politicamente molto... Pisapia lo sa, questa è una giusta furbata che lui dice, non è che si possa... No, furbata è quello voti... che dicono tutti i candidati quando arrivano al secondo turno, non chiedo l'appoggio ufficiale. Ma so che gli elettori votano. No, però voglio dire, c'è uno studio recente molto serio che dice che poi gli elettori al secondo turno non seguono le indicazioni. No, quello in parte non lo seguono. No, non c'è in gran parte, in gran parte. In gran parte lei dice? Sì. Senta, è quello che lei si augura naturalmente, però lei dice ufficialmente io non chiederò mai l'appoggio del terzo polo, è vero? È così, no, l'appoggio degli elettori del terzo polo. No, gli elettori sì, forza, gli elettori, ecco. Per forza, gli elettori, ecco, per... non farò accordi, è diverso. Non farà accordi. Quindi il vice sindaco non sarà mai del terzo polo, per intenderci. Beh, mai non lo dico mai. Beh, è ben difficile, per quanto mi riguarda, siccome sarò io a dover decidere, che possa essere il vice sindaco del terzo polo. Quello che potrà invece, secondo me, è importante dire che il terzo polo potrà avere dei ruoli di garanzia molto importanti nel Comune di Milano. Il Comune di Milano ha molto bisogno di ruoli di garanzia. Quali sarebbero, per esempio? Beh, adesso non vorrei dire, ad esempio, la presidenza di alcune commissioni che sono commissioni di controllo. Il presidente del Consiglio Comunale? Beh, io posso, non voglio anticipare assolutamente nulla, però posso dire che da tutte le parti, io non sono in Consiglio Comunale, sì. dal centro-destra al centro-sinistra tutti dicono che Palmieri ha fatto molto bene. Mettiamo che lei dovesse vincere, riconfermerebbe Palmieri alla presidenza del Consiglio Comunale? No, lì è il Consiglio Comunale che dice. Vabbè, sì, lo so, insomma, l'idea però, Pisapia. No, non voglio fare nomi perché non ci ho pensato. Però potrebbe andare al terzo polo. Però no, penso che un organo di garanzia debba... molte volte andare non alla maggioranza ma all'opposizione. Allora, è un principio generale. Dunque potrebbe andare in teoria, se lei vincesse naturalmente, anche al centrodestra. Al PDL. Purché sia un soggetto è un uomo di garanzia, ecco, per tutti. Non Berlusconi che fa il capolista, allora, insomma. No, decisamente. Anche perché non mi sembra un soggetto che possa dare garanzie di imparzialità, perché quella è la garanzia. Lui è schierato e continuerà a essere schierato in maniera diversa dalla mia, ma sicuramente un soggetto che deve dare garanzia a tutti e deve essere al di sopra delle parti. Vabbè, da questo punto di vista nessuno del PDL è al di sopra delle parti, e nemmeno lei lo è, naturalmente. Però un presidente del Senato, anche dalla parte opposta della maggioranza, può essere un soggetto che è capace di quando esercita il proprio ruolo e la propria funzione di essere di sopra le parti. L'abbiamo visto con sì, molte persone. Senta Pisapia, e a proposito, Berlusconi, come lei sa, si candida come capolista del PDL al Comune di Milano, lo ha già fatto diverse volte. Voi non pensate di rispondere con allo stesso modo? So che le liste praticamente sono state già fatte, eccetera, dunque non si può intervenire. Però dopo questa mossa di Berlusconi, si potrebbe pensare a una, che ne so, a una personalità, diciamo, di richiamo nazionale contro Berlusconi? No, le liste si possono ancora cambiare, perché sì, certo. No, assolutamente, perché voglio che in questa competizione elettorale si parli di Milano, di come cambiare Milano, per quanto mi riguarda, come migliorare Milano, e non si parli dei grandi temi nazionali che poi devono gestire altri, cioè il Presidente del Consiglio, il Governo e il Parlamento. Aggiungo che oltretutto, secondo me, è poco serio candidarsi per la quarta volta al Consiglio Comunale, essere eletti, stare a Milano in Consiglio uno o due volte e poi dimettersi. Senta, questa, ma non è una truffa? Una presa in giro dei milanesi. Non è una truffa? Truffa è troppo forte, ecco, però sicuramente è una presa in giro, è mancanza di rispetto di chi, degli elettori. Io l'ho definita anche una piccola truffa. Io ho detto una cosa importante, io credo e spero di vincere, ma se anche perdessi, pur avendo una professione, pur avendo altre possibilità anche a livello politico, resterò in Consiglio Comunale soprattutto per creare una nuova generazione politica di giovani. Quindi non farà come gli altri candidati di centro-sinistra che una volta trombati sono spariti tutti. È vero che gli altri dicevano la stessa cosa che sta dicendo lei, Pisapia. Però ad esempio Nando Dalla Chiesa è rimasto fino in fondo. Ci sono delle persone che l'hanno fatto. Gli ultimi no. Mi dicono che Emma Bonino potrebbe fare il capolista della lista Bonino, di non so, dei radicali, se si presenteranno con una lista autonoma, è vero? Sicuramente si presenta nella lista radicali, per me è stato un bellissimo regalo. Anche politico. Lì però è una berlusconata. Se si presenta lei come capolista, una mezza berlusconata, perché non credo che faccia la stessa cosa. No, lei si presenta ultima della lista. Ultima della lista. Sarà Marco Cappato che si presenta. Sì, no, questo lo so. Sì. No, pensavo che si candidasse poi in alto, insomma, in alto nella lista. No, invece proprio ultimo, penultima, adesso non so se Pannello lei. Ma Vendola si farà vedere o farà una campagna elettorale tutta milanese e quindi Vendola rimarrà in Puglia? O avrà un ruolo nella campagna elettorale? No, come ho sempre detto, saremo noi milanesi a fare la campagna elettorale. Chiaramente Vendola, che è presidente di un partito che fa parte della coalizione, verrà un giorno, come è venuto Bersani un giorno, come verranno i segretari degli altri partiti. Ma sarà incentrata proprio solo sui un giorno, candidati. Solo un giorno. Sì, un giorno. Solo un giorno a fare un comizio. Il Berlusconi invece pare che farà il diavolo a quattro. Si fermerà tutto il periodo a Milano, anche per altri impegni suoi. Allora, abbiamo la pubblicità. Sì, impegni di tribunale di cui parleremo tra poco, perché ruberò altri 5 minuti a Giuliano Pisapia dopo la pubblicità. 800 24 00 24, perché Giuliano Pisapia è ancora uno dei più grandi avvocati milanesi, e siccome sta per iniziare qualche processo interessante tra qualche giorno, voglio sentire un'opinione da lui su questo tra poco. Vengo da una cultura che ha grande rispetto, ma è pronta e disponibile a difendere i propri figli sino alla morte. Cioè significa che qualcuno che vuole soffiare sul fuoco soffri, ma stia attento che anche noi sappiamo soffiare sul fuoco, perché i figli sono sacri e vanno difese. La democrazia deve essere democrazia per tutti e a nessuno è consentito uscire fuori dalle regole del gioco. Hai capito, Parenzo? Ma di chi parla? Ma adesso non so, ma la competenza del TSO è di un sindaco, no? Di chi è in genere? La competenza territoriale per fare il TSO, il trattamento sanitario obbligatorio, perché i sindaci hanno anche queste responsabilità, firmano i TSO, no? E che ne so, non lo so, forse Pisapia lo sa. Ma che dice, i figli, ma lì l'ha fatto a Catania, ci sarà un sindaco a Catania che, voglio dire... Dici, si doveva mandare l'ambulanza immediatamente? No, non dico niente, figuriamoci se dico qualcosa, io dico no, niente, non lo so. dire, è un tuo nemico storico ormai, Scilipoti, per cui sei un nemico storico. È ormai un tuo nemico storico, per cui più di questo che ti posso dire io, non lo so. Senta, Pisapia, lei quanto spenderà per la campagna elettorale? Perché qui c'è questa è buona domanda. Bella, bravo, è bravo come giornalista. Dai, finisci, apprezzo. No, è vero, quanto spenderà? No, no, volevo dire che effettivamente il sindaco che ha il compito di decidere sui TSO. Su, decide lei non firmerebbe un TSO per Scilipoti? Sì, no, no, però, prima devo diventare sindaco. Quanto spenderà? Allora, la previsione sono 850.000 euro. Finora nella raccolta tra la gente sono arrivato a 500.000 euro. Spero però lei di pensa, pensa di spendere 850.000? Sì, e non 15 milioni di euro. Ma questa cifra dei 15 milioni, ecco appunto, lei ha detto recentemente la Moratti spenderà 15 milioni, ma chi glieli dà 15 milioni di euro? Sono i suoi? Beh, il marito, chi glieli dà? So che nelle scorse elezioni una parte di fondi, a quanto mi risulta, però non ci posso mettere mano sul fuoco, quindi non vorrei, una parte è stata data proprio dalla società del marito, chiaramente tutto regolarmente, no, beh, certo, evidente, e gli altri saranno suoi evidentemente. Ma 15 milioni di euro per fare la campagna? Parenzo, tu 15 milioni di euro per fare una campagna? No, ma io su no, ma io infatti io perché ognuno può spendere quello che vuole, io sono solamente laico su questo. Ho detto prima che ho una simpatia per questo bisogno, però dopodiché dico che ognuno, voglio dire, si sa, il signor Moratti non è che sia indigente, si chiama Moratti, questo un po' di petrolio, giro, c'è una famiglia che è tutto sommato benestante. Però 15 milioni di euro. 15 milioni di euro sono una bella cifra, indubbiamente. Lei che farebbe con 15 milioni di euro, signor Pisapia? Ma non voglio fare demagogia, non li userei certamente per una campagna elettorale. Questo... Ah, non li userebbe per una campagna elettorale? No, assolutamente no. Ma li spende tutti? Un po' più nobile, ecco. Non perché la campagna elettorale non sia importante, ma perché i voti non si comprano solo con la pubblicità. La pubblicità è importante, le iniziative sono importanti, ma sono soprattutto i rapporti con le persone, con la gente, che secondo me è importante. Infatti io questo sto facendo, girando Milano dalle periferie al centro delle periferie, ogni giorno, ogni sera. Questo... Quindi non la userà come strumento di lotta politica il fatto che lei, il sindaco Moratti, ha deciso di investire questa cifra? Beh, no, l'ha detto più volte, certamente. Polemica, sì. Qualche polemica, sì, certo. È una diversa modalità di fare politica. Cioè, immorale secondo lei spendere 15 milioni di euro per fare una campagna elettorale? No, dico che è una diversa modalità di fare politica. Io proprio ho una concezione della politica diversa. La politica si fa parlando con la gente, andando in consiglio comunale, parlando con i consiglieri di zona. Lei è questo in teoria comunale... in teoria la Moratti lo fa, insomma. No, no, è andato in consiglio comunale 3 volte questa, nello scorso anno e 4 credo questo, in questi 3 mesi. Quindi e non credo a quanto mi dicono che giri molto tra la gente, mezzo alla gente, se non per fare delle inaugurazioni. Però la mia campagna elettorale è soprattutto in prospettiva di come voglio cambiare Milano, non mi interessa tanto attaccare il mio avversario. No, per carità, ma però è curioso sapere se, dunque, se qualcuno venisse da lei e dice signora Pisapia, io per la sua, siccome credo in lei, lei può fare il bene di questa città, le do 5 milioni di euro, che fa? Li rifiuta? No, cioè non è che li rifiuta. Sì, credo di sì. Poi sa, quando uno è davanti alla scelta è difficile, però credo di sì, perché personalmente sono convinto che le campagne elettorali non si vincono coi soldi, ma si certo che se uno si vincono, beh, si vincono certamente locali, no, se fosse a livello nazionale, perché 15 milioni di euro, 5 milioni di euro a livello nazionale per coprire tutto il territorio nazionale dei manifesti servono, per Milano no, non sono non servono, tant'è vero che oggi Moratti è piena a Milano di manifesti, ma ogni 5 metri, forse alla fine sortisco l'effetto contrario di quello voluto. Ah, beh, quella è la sua speranza, naturalmente. Sì, effettivamente è chiaro, Milano è piena di questi manifesti, anche secondo me non si vincono le campagne elettorali con i soldi, certo un po' aiutano, su questo non c'è dubbio. Allora, le voglio chiedere una cosa che riguarda la famosa vicenda della casa, no? In cui è stata coinvolta la sua compagna. Qualche settimana fa è uscita la notizia che in realtà la famosa lettera di disdetta dal contratto di questa casa di Porta Romana, di Corso di Porta Romana, è stata data un giorno prima o il giorno stesso in cui poi la notizia si era diffusa nelle redazioni dei giornali, e non qualche anno prima, 2 anni prima, 3 anni prima, come lei aveva detto. È vero questo o no? No, io ho detto una cosa diversa. A parte che quel contratto era legittimo. Sì, no, ma nessuno contesta la legittimità del contratto. Fatto dall'Unione Inquilini e dalla proprietà, dalla sua edilizia. Quindi era tutto regolare, legittimo. La realtà è che quel contratto è stato disdetto dalla proprietà 3 anni fa, adesso sono cose che io non conosco, io non sono cose che mi riguardano, io con adesso ricordiamo compagna, gli ascoltatori, fino a un mese fa non vivo con la mia compagna, Detto questo, però, il contratto d'affitto era stato disdetto 3 anni fa dalla proprietà. Due anni e mezzo, non mi ricordo. Sì, no, nel 2008 questo risultava. Però, recentemente su qualche giornale è uscita la notizia che in realtà la lettera di disdetta da parte della sua compagna, che si chiama Cinzia Sassi, è una giornalista di Repubblica. È quello che l'ha scritto lei sul. Quello che ha scritto lei. Quando ha dato la notizia un giorno prima che uscisse sulla stampa. Però la lettera vera e propria, lei aveva dato la notizia che 2 anni fa aveva disdetto il contratto, 3 anni fa. In realtà poi si è venuto a sapere, volevo da lei una conferma se lo sa, naturalmente, che questa lettera è stata data fisicamente dalla signora Sasso al Pio Albergo Trivulzio il 17, che insomma che era febbraio o gennaio, non mi ricordo bene, quando è scoppiato, il giorno in cui è scoppiato lo scandalo, che è un po' in contraddizione con quello che la stessa signora Sasso aveva detto prima, sì o no? Non lo so, nel senso che credo che non sia in contrasto col fatto che 3 anni prima o 2 anni e mezzo prima c'è stata una disdetta da parte della proprietà. Però se il contratto era scaduto, era stato disdetto, poi ci sono state tutta una serie di contatti tra l'Unione Inquilini e la proprietà, ma che non riguardano il suo appartamento, riguardavano vari immobili, che si è definito, credo, 15 giorni fa, e da cui poi c'è stata la decisione di lasciare la casa, come ha lasciato, a differenza di altri che ancora non ha lasciato. Pensi che nello stesso appartamento, nello stesso immobile dove abitava la mia compagna, ha dello studio legale un consigliere comunale del PDL. E chi è? Attuale consigliere comunale. Chi è? L'avvocato Gallera. L'avvocato, sì, è uscito nella lista. Cioè, sì, anche la televisione che ha ripreso. Sì. La... Però mi scusi un attimo, questa storia qua, un po'. Lei ha detto di avere fatto che c'è stata in questa vicenda una leggerezza, no? Ha messo una leggerezza, sì. E questa leggerezza la vogliamo rispiegare? In che cosa consisteva? È stato un po' di sfortuna, nel senso che io avevo deciso, appena finite le primarie, che in ogni caso, visto che mi candidavo a Milano, anche se la candidatura non c'era e non c'era nessun obbligo, che mi sembrava opportuno che la mia compagna non abitasse più in quella casa dove abitava allora, malgrado che fosse, ripeto, tutto legittimo. È successo, come ormai ho detto più volte, che avevamo già trovato una casa dove andare a vivere insieme da tempo, doveva essere consegnata a dicembre, purtroppo, e qua ci sono i documenti che parlano, purtroppo quella casa... Ecco, perché queste cose qua non sono state dette prima, secondo lei? Immediatamente l'errore, la leggerezza che ho fatto è di aver aspettato 2 giorni a dire queste cose, perché devo fare delle verifiche, perché si parla tanto di autonomia delle donne, io chiaramente non ero mai andato a controllare quanto, come e dove e perché la mia compagna fosse in quella casa, ecco, sono scelte sue che non avevate mai parlato al tempo. No, assolutamente, ma se lei mi avesse chiesto quanto spendo io di spese per il mio condominio... Stiamo sempre parlando della casa della sua compagna, naturalmente, questo è sempre da sottolineare, però, e non di casa sua, come è evidente, però ci sono 2 aspetti, il primo è questo qua della disdetta il giorno stesso, quando la notizia si era ormai diffusa nei giornali, e lei dice, io non lo so perché questa disdetta è stata data quel giorno, non so dare una risposta a questo, però questa è la realtà, perché questo è uscito sui giornali, non è stato smentito. Lo dice lei che è la realtà, io non lo so se è la realtà. Beh, insomma, lo dico io. Diciamo, cioè, il Fatto Quotidiano, il Fatto Quotidiano in un articolo ha detto sostanzialmente questo, la signora Sasso avrebbe disdetto il contratto d'affitto col Pio Albergo Trivulzio lo stesso giorno in cui nella redazione del giornale avevano iniziato a girare le liste bollenti del PAT. Ognuno si assume le sue responsabilità di quello che dice, ecco. Cioè, non mi posso assumere le responsabilità di altri, o no? Non lo so, lei, insomma, stiamo parlando per interposta persona, naturalmente, però è una cosa modo... È questo che secondo me non è giusto. Io non, chiariamo una cosa, io non ero neppure e non sono neppure consigliere comunale, Io mi sono candidato a sindaco e anche ufficialmente non sono ancora candidato, perché sarò candidato quando saranno depositate le varie liste con me come candidato sindaco, quindi mi sembra veramente una strumentalizzazione nei miei confronti su una cosa su cui io non c'entro nulla, e peraltro su questioni del tutto legittime, su cui secondo me con molta onestà intellettuale si era deciso di porre... di risolvere anche un eventuale ipotetico problema ben prima che emergesse questa storia. Poi ci sono sempre i tassolini che rompono l'armonia di una scelta fatta, di una scelta secondo me molto di onestà intellettuale. Quando il settimanale Oggi le fece un'intervista, qualche mese prima del diciamo un mese prima dello scoppio di questo scandalo, lei si fece fotografare in quella casa lì. Una settimana dopo, avendo fatto un altro servizio sempre sì. per un settimanale della stessa casa sì. editrice, abbiamo fatto un servizio a casa mia, proprio perché abbiamo deciso che siccome volevano fare il servizio a tutte e due, era giusto che un servizio fosse a casa sua e un servizio a casa mia, un servizio giornalistico chiaramente. No, certo. Ecco, mi sembra che sia proprio un rapporto di parità che... Sì, ma lo rifarebbe, visto il piccolo caso che è scoppiato attorno a questa vicenda della casa, la rifarebbe questa scelta di farsi fotografare? Il direttore di oggi, in un articolo scritto successivamente, Umberto Brindani ha scritto queste parole. Gino Pisapia, che ci ha accolto per foto e intervista nell'abitazione Pat della compagna Cinzia Sasso, come se niente fosse, ci ha fatto credere che quello fosse il loro nido d'amore. Non ho capito come fate a dire queste cose, visto che non era presente. Vabbè, se lo sarà fatto riferire dal giornalista. Cioè, l'impressione era che in questo servizio lei considerasse quella come casa sua, insomma, questa era l'impressione. Chiunque mi conosce sa che è la mia casa da 30 anni, i miei amici e anche le persone che conosco che sono venute sanno benissimo qual è la mia casa e qual era la casa di... Comunque lei dice no, alla fine non c'è stata nemmeno leggerezza, perché lei all'inizio aveva parlato di leggerezza. Ho detto leggerezza, nel senso che avrei dovuto rispondere immediatamente. Ci ho messo 2 giorni per ricostruire i fatti. In quei 2 giorni effettivamente sono stato in silenzio, perché non... dovevo fare delle verifiche, non volevo dire delle inesattezze. La leggerezza è stata in questo senso. Ecco, ma perché la cosa non è stata rivelata da voi prima, cioè da lei, dalla sua compagna o da lei, eccetera, prima dell'uscita dello scandalo, diciamo, sui giornali? Ma perché non c'era nulla di scandaloso. Cioè, si sono confuse situazioni completamente diverse, situazioni tipo quella dell'attuale sindaco, che il figlio dell'attuale sindaco che ha costruito una casa... la Batman, la casa di Batman. Sì, che poi lui ha smentito Milano, che ci fosse qualcosa di in un quartiere dove sembra che adesso, attraverso il piano regolatore, un spazio che allora sì. non era abitativo diventa abitativo, con quindi qualcosa che avrebbe comportato dei guadagni. Quello però successivamente è intervenuto. Io non ho mai polemizzato su questo, ma certo è che invece polemizzare sul fatto che una persona, come tanti altri giornalisti, sì. come tanti altri giornalisti, abitavano in case con affitti del tutto regolare, affitti convenzionati, partendo sì. da un contratto che risaleva a molti anni fa, quando l'affitto era deciso dalla legge. Quindi non ma nessuno dice che l'affitto è illegittimo, che è una vergogna, eccetera. Figuriamoci, non è quello il punto. È sulle modalità di comunicazione in cui si è poi svolta questa vicenda. Va bene, la ringrazio. Prego, grazie. Macchia del fango, giusto? La macchia del fango, no, lei ha nominato. Non possiamo parlare di macchia del fango. Non possiamo parlare di macchina del fango come lei ha fatto. Quello fu un errore, secondo me, parlare di macchina del fango contro di lei. Dipende. Quando per colpire me colpiscono un'altra persona, io credo che ci sia qualche cosa che non vada nell'informazione. Ma perché colpiscono? È stata rivelata qualcosa? No, lei non ha seguito le pagine milanesi, io non gliele mando, ma oltretutto poi risponderanno. Io non ho mai fatto querele perché non è mia abitudine. Su questa cosa però c'è stata una trasformazione della realtà finalizzata esclusivamente a colpire la mia immagine. E poi la gente dice, se colpiscono la tua immagine su queste sì. cose, vuol dire che non ha nulla di male da dire di te. Bene, grazie. Bene, grazie. Traffico, anzi pubblicità. Va bene, caro Parenzo. Che noia, questa questione della casa è una noia mortale, devo dire la verità, non so nemmeno perché l'ho affrontata, devo dirti la verità. No, questa... domanda legittima. Sì, questa è noiosa, i tempi, le cose, quello, quando l'ha detto, quando non l'ha detto, prima, dopo. Sì, è vero, ma no, hai ragione, è una domanda legittima, abbiamo fatto il nostro lavoro. Sì, bene, sì, un po', mi è sembrato un po' su questo, un po', non dico nervosetto, però, no? Vabbè, è la cosa, diciamo, che è una sorta di cluster bomb che è esplosa in questa campagna elettorale. Tutto sommato è l'unica cosa che è stata tirata fuori contro che è venuta fuori contro. Sì, adesso si è un po' mosciata nelle ultime settimane questa vicenda della casa. Ma anche la bad casa, vabbè, ma frega nulla se si è fatto, non so se ha fatto quella roba. È un argomento anche dall'altra parte, no? Da parte della Moratti, sì, che sì. mi interessa poco, si parla del figlio. Cioè, ci ha raggiunto, senti chi ci ha raggiunto. Chi c'è? Diego Volpe Pasini, mitico. Diego. Grande. Bisogna bilanciare Parenzo, perché Parenzo assolutamente va controllato. Va controllato a vista. Va controllato, va controllato a vista perché veramente sbilancia assolutamente la trasmissione a favore suo, straparlando male di un sacco di gente. Bisogna bilanciare. Cioè, non mi dire. Scusami, Diego, non dirmi che tu difendi Scilipoti. Assolutamente sì. No, vabbè, Parenzo, io non. No, sai perché difendo Scilipoti? Ti spiego. Io ho partecipato alla cena dei responsabili. Dove? Chiamiamo le responsabili al Palazzo Grazioli dopo la. Attenzione, Diego Volpe Pasini. Diego Volpe Pasini è andato alla cena dei responsabili al Palazzo Grazioli. Sì, per celebrare l'incarico a Saverio Romano di ministro dell'agricoltura. Celebrare. Saverio Romano è una splendida persona che farà bene questo lavoro. Adesso, uno può anche, Diego, scusami, uno può anche appoggiare il governo Berlusconi, per carità, è assolutamente legittimo, però adesso non è che uno non è che deve fare per forza l'elogio a Saverio Romano, no, cioè, no, non è necessario. Io parlo di persone che conosco, che ho saputo, che ho apprezzato, l'ho visto in tutta la fase in cui tentennavo se nominarlo o meno, è un ottimo amico di Vittorio Sgarbi, abbiamo visto decine di volte ragionandoci insieme, devo dire la verità che ho trovato una persona assolutamente diversa da quella che immaginavo, che non sbracciava, non diventava pazzo per diventare ministro a qualunque costo, che voleva far qualcosa per la sua terra e per una parte del paese in particolare, e francamente, insomma, siccome lo conosco, l'ho conosciuto, posso dire che posso dire qualcosa a ragion veduta. Bene, allora iniziamo da Scilipoti, però dopo il traffico, la difesa di Scilipoti, incredibile dictu, a tra poco. Beh, lasciami dire una cosa però sull'intervento di Pisapia, caro Parenzo, sempre 800 24 00 24, che questa cosa dei soldi per cui non si possono spendere 15 milioni di euro in campagna elettorale, una cosa un po' senza senso. Se vuole spendere 15 milioni di euro, se il marito gli dà alla Moratti 15 milioni di euro a spendere in campagna elettorale, spendesse Non mi sembra una questione. È immorale. Non si possono spendere in un altro modo, non per una campagna elettorale. Certo, sì, tante cose. Si possono andare anche in beneficenza, però cosa c'entra? Qui c'è una campagna elettorale, lì anche in beneficenza, sono fatti suoi. Appunto, dico. Non mi scandalizza assolutamente. Che dici, Volpe? Crea economia, fa lavorare le tipografie, le radio, le televisioni, i gadget, le persone, i volontari, le hostess, cioè distribuisce denaro, non è che vengono buttati nel cesso. Va benissimo. Senti, com'è Scilipoti conosciuto da vicino? Per la campagna elettorale benissimo, sono suoi che li spenda come vuole, ma infatti nessuno, guarda, adesso non pensare che sia con le fette di salame sugli occhi. Non me ne frega nulla, ho detto che non lo trovo uno scandalo. Ma Volpe, com'è Scilipoti visto da vicino? Beh, è straordinario, perché è esattamente come uno se lo immagina, cioè è una specie di roba tonda, però con due occhi vispi come pochi altri. Silenzioso, assolutamente non protagonista. È silenzioso, lo descrive come un cane, cosa c'entra? Silenzioso. Molto sveglio. Poi devi, Parenzo deve sapere che io. Porta rispetto di Scilipoti, c'è silenzioso, ma come ti permetti? Ma perché devi parlare così di Scilipoti? Parla molto male di te sempre, questo mi fa piacere, quindi è un'altra cosa molto positiva. Se può ti morde alle calcagne, ti morderà le calcagne. Sì, infatti è un chihuahua, bravissimo. Sì. È un chihuahua. Ma la cosa che Parenzo non si rende conto è che Scilipoti ha dato a me e a tantissimi come me la soddisfazione di vedere quell'essere che si chiama Gianfranco Fini dire la Camera boccia. Quella è stata una cosa che noi gliela dovremmo allora tu, da, come dire, non dico militante, ma insomma da simpatizzante, come definirti? Da simpatizzante berlusconiano del governo Berlusconi? No, sono amico e militante assolutamente. Appunto. Assolutamente. Dici, siccome ci ha aiutato non far vincere Fini in quella battaglia del 14 dicembre a pronunciare quella parola, può fare, adesso si può permettere di dire quello che vuole. Ma insomma, diciamo che abbiamo un debito di amicizia e di riconoscenza fondamentale. Poi è indubbiamente uno che si dà da fare, si muove, fa queste cose, è un po' pittoresco, senza dubbio, fa politica a modo suo, ma è molto meglio lui che fa politica così di tanti sornioni, di tanti maneggioni che in virtù del loro ruolo parlamentare, nel segreto fumoso delle stanze, nel silenzio, nell'ombra assoluta, fanno gli affari propri, no? Ma che dici? Ma veramente ormai non c'è più limite al peggio, voglio dire. Si può dire la qualunque. Ma ti rendi conto, Volpe? Parliamo seriamente. Adesso l'elogio di Scilipoti, l'elogio del trasformismo, l'elogio di una persona eletta con l'ITV. Ha fatto la scelta giusta, che trasformismo. Ma è una persona assurda illuminata, ha dimostrato un'intelligenza illuminata. Ha scelto di stare con chi è giusto stare. Vabbè, ho capito, questo è un atto fideistico, però questo qua è un atto fideistico il tuo. Guarda che io sono molto critico nei confronti della politica di Berlusconi. No, ho capito, però tu dici, siccome è venuto dalla nostra parte, cioè dalla parte giusta, allora va bene, non può essere un ragionamento questo. Va bene, non è che se stava là andava male, è venuto di qua meglio, scusami. No, ho capito, però le modalità in cui questo è avvenuto, il fatto... Guarda che è stato il più sincero... Ha avuto un incarico? È sottosegretario? No, che c'entra, però grande visibilità. Grande visibilità il gruppo parlamentare. Attenzione, grazie a tipi come Parenzo che non ne fanno altro che parlare male tutti i giorni e quindi lo esaltano. Ma non è che parlo male, esercito, come dire, la mia capacità o incapacità, insomma, di analisi, e la cosa che però più mi spaventa è il tuo amico Berlusca che ogni giorno dice arriveremo a quota 330. Siamo vicini. Come fosse una lotteria di Capodanno, arriveranno altri con noi. Sono i numeri che gli servono per consentire ai ministri di stare al Consiglio dei Ministri se c'è una votazione, come l'altro giorno quando sono volate le schede. Ma che politica è? Vabbè, i numeri, sì, però scusami Parenzo, d'accordo, per carità, in questo momento le prospettive del governo dal punto di vista, come dire, delle proposte non saranno delle prospettive di lunghissimo periodo, comunque non saranno delle prospettive di grande profondità, però coi numeri bisogna fare i conti, la politica, ma spiegatemi voi che siete il gatto e la volpe. No, ma che gatto e la volpe, cosa c'entra? Lui è la volpe, io lo so. Spiegatemi voi cosa avete capito, cosa intende dire Berlusca quando dice altri ne arriveranno, siamo a quota 330. Ma vuole blindare, è quello che ti ha spiegato, ma è quello che ti ha spiegato Volpe prima, vuole blindare la Camera per permettere ai ministri di non essere sempre presenti. E come lo fa Michele? Come li blinda? Come li perché fa? Passano, cosa vuol dire? Ci sono nuovi arrivi nel PDL? Ma che è questo? Guarda, Parenzo è meraviglioso perché è subdolo come tutti quelli di sinistra. Allora, ma che di sinistra? Quelli che sono stati criticati per i passaggi con il centrodestra, che chi ha avuto un incarico? Chi? Vabbè, adesso arriveranno gli incarichi. Saverio Romano, ti segnalo, caro Volpe, che Saverio Romano. Saverio Romano per tutti. Beh, ho capito, ma Saverio Romano, i sottosegretari ci saranno prima o poi. Vedremo. Intanto sono lì, fanno la loro parte, sono critici anche nei confronti del governo, lo hanno dimostrato anche l'altro giorno con alcuni voti non favorevoli a alcuni provvedimenti, perché ovviamente fanno il loro lavoro. Saverio Romano, come gruppo dei responsabili che tengono in piedi per non andare al voto, che consideravano un fatto scriteriato, ha avuto un ministero importante e significativo e vedremo come saprà utilizzarlo, io spero molto bene, e quindi hanno perfettamente con coerenza dimostrato e messo in pratica quello che volevano, cioè non andiamo al voto anticipato perché sarebbe un danno per il paese. Sì, vabbè, ho capito, ma insomma non sembra che ci siano grandi scandali, grandi cose. Però, no, ma l'hai sentito, scusami un attimo, Volpe, l'hai sentito Scilipoti che afferma di essere stato consulente del Brasile del governo di Bahia, siamo pronti alla morte per difendere i nostri figli, per carità, sono 56 minuti di intervento. Alcune delle cose che ha detto dimostrano anche una capacità dialettica limitata. È un modo di parlare molto rustico e diciamo. Cioè, ma tu credi che Berlusconi davvero voglia creare il dipartimento delle medicine non convenzionali? Abbi pazienza, adesso voglio dire. Berlusconi innanzitutto ha detto. Ma che gliene frega Berlusconi delle medicine non convenzionali? Nulla di non possibile nell'aprire un confronto con i ministri delegati. Avere un confronto in gergo democristiano vuol dire sì, ne discuteremo, ma io ne discuterà con chi ne ha competenza. Non mi sembra che io personalmente non mi propongo. Vedremo. Mi pare una battaglia fondamentale rispetto alla questione delle aliquote, ad esempio. Va bene, Augusto da Firenze, sentiamo Augusto da Firenze un attimo. Io Augusto da Firenze. Ragazzi, aspetta, no, ma fra 5 minuti c'è chi ha inventato l'inno di Scilipoti. Sei pazzo? Ma adesso c'ho Zamparini che sta. Chiedo scusa se devo fare anche un'altra trasmissione. No, ma alle 20. No. Ti devo dire una cosa a te a proposito sulle monete che hai detto ieri l'altro. Sì, cosa sì, dopo la borsa. Allora mandiamo subito la borsa 800 24 00 24, poi altri 5 minuti. Lo so che hai Zamparini, però aspetta 5 minuti, non morirà. Va bene, sì, cambiate la programmazione allora, perché sono Radio 24. Questo è l'inno del Movimento di Responsabilità Nazionale, creato apposta dal maestro Servio Cipriano. Buongiorno Parenzo, fra poco ci lasci, lo so, ci devi lasciare. Pronto, fra poco. Pronto, sì. pronto. Tu, chiamiamo Cruciani il malvagio. Come si fa a chiamarmi? Presidente! Come si fa a chiamarmi un 4-0? Presidente Cruciani, Zamparini! Cruciani il malvagio sei. Come sta? È Parenzo che l'ha messo in collegamento. Ma io lo sapevo. Parenzo gli fa sempre gli scherzi da prete. Ma io lo sapevo che lei, io lo sapevo che lei richiamava Delio Rossi, il mio amico Delio Rossi, lo sapevo che lei lo richiamava, lo sapevo. Sì, lo sapevo. Ero convinto di questo. Lo sapevo anch'io, ma pensavo due domeniche fa, l'ho chiamato tardi. Ah, due domeniche fa lo voleva chiamare, addirittura. Prima del Milan, ma dopo l'ha vinto col Milan. Senta una cosa, ma... No, ma mi dispiace anche per Cosmi. Per Cosmi, perché è anche una bravissima persona. Ma lei ha detto che ha fatto errori da prima elementare ieri? Ma no, quando ha cambiato bacino perché è andato in confusione, secondo me. È andato in confusione. Ma ci può promettere qui ufficialmente che Delio Rossi almeno resta fino alla fine del campionato? Ufficialmente, perché sennò non se ne può più. Zamparini, almeno diciamolo alla Zanzara, Zamparini, no, giuro, voi, facciamo un giuramento. Ma voi non sapete che sto inseguendo il Guinness dei primati, no? Magari risoneranno ancora una volta di richiamarlo, no? Sto scherzando. È chiaro che l'ho richiamato per vedere se lui mi vince la Coppa Italia. Solo per quello l'ha richiamato? No, anche perché è un ottimo allenatore. E poi perché mi ha detto che è anche molto arrabbiato con me, allora ancora meglio. Questo è importante, essere arrabbiati un po' col presidente. Molto importante. Perché c'è uno stimolo, se uno è arrabbiato con lei. Ma le ha promesso che mette a posto la difesa oppure lei gli ha dato carta bianca? No, carta bianca, per cui vediamo un po' se con l'arrabbiatura mette a posto la difesa. Ma non ci crede troppo lei, no? Devo entrare in trasmissione con l'amico Parenzo, Lo so, grazie presidente. Un abbraccio, a presto. Parenzo, dove sei? L'ha detto Cruciani. Parenzo? Ecco. Mi hai fatto un regalo pazzesco. Ma io vedi che ogni tanto se ti regalo queste piccole perle. Ma facciamolo ogni lunedì, scusa, Ogni lunedì, cioè, magari chiediamogli anche il consenso ogni tanto, anziché buttare il telefono così. Comunque, per carità, possiamo fare qualunque cosa, però magari chiedigli, anche questa volta gli ho chiesto un caso, ho detto, se c'è il telefono per lei, se c'è lavoro. Facciamo lo spazio Zamparini alle 20:35, no? Che dici? Direi che è il caso, no? Vabbè, comunque. Sì, no, è giusto. Va bene, adesso io ho fatto il mio lavoro. Un attimo solo, voglio che saluti ufficialmente il compositore di questa musica. Almeno salutalo, il maestro Stelvio Cipriani. Buonasera. Buonasera. Maestro, come stai? Io benissimo. Lei ha fatto delle opere memorabili. Questa lo dico da ascoltatore, non da melomane. Mi piace veramente, non mi piace. È un problema suo, a me piace tanto invece. Maestro, cosa si è ispirato? Ha ragione lei, perché io sono in vetrina. Allora, Anonimo Veneziano è piaciuto a tutti, questa non piace, io non mi posso lamentare. Beh, diciamo, maestro, che tra Anonimo Veneziano anche Van Gogh qualche tela l'avrà sbagliata, certo. Capito? Fare le musiche per Anonimo Veneziano, sì, e anche per la polizia ringrazio, altre cose, fare la ne musica 300, guarda. Lo so benissimo, ho consultato la sua. Però nella vita di tutti c'è un momento di caduta. Questo non sarà no, il suo. Questo lo dice lei. Invece una cosa di orgoglio, guardi un po'. Non litigate, però. Parenzo, no, tu sei... no, non litigando. Ho detto che nella vita, anche nella mia vita, che vuole che le dico, che vuole che io dica a questo signore dice una caduta, io dico sì, ha ragione lei. No, assolutamente, lei deve replicare. Mi l'ho detto parlare. No, ma mi rivolgevo soprattutto che non è così. No, ma mi rivolgevo soprattutto a Parenzo perché... che io sono pronto a dimostrarle, sì, se è buona analiticamente, sì, armonicamente, melodicamente, sì, battuta per battuta, sì, con vicino accanto un brano di Giuseppe Verdi, le posso garantire che ci sono delle analogie. Allora se Giuseppe Verdi è criticabile, anche Cipriani. Contrario, no. Andiamo avanti. Senta Cipriani, ma a che cosa si è ispirato per... Prego? A che cosa si è ispirato per questo inno del movimento di responsabilità? No, io sono un professionista che faccio la messa dedicata a Sua Santità Giovanni Paolo II, che già ho seguito tre volte, un'orchestra sinfonica eccetera. Adesso in occasione della sua santificazione, come tutti sanno, il 1° maggio, no? Giusto? Sì. Eseguirò concerti, ho composto il tema di Carro dedicato a Giovanni Paolo II, sì, ho composto la musica su un testo di Giovanni Paolo II, la preghiera per la pace, sì, e ho composto la Divinità del Verbo sul testo del 4° Vangelo di San Giovanni, va bene? E quindi cose grosse, scrivere tutto. Cose grosse, certo, no. Per cui... certo, per me l'inno del, come ripeto, l'inno questo qui, È un inno, le posso garantire, armonicamente, melodicamente, battuta per battuta, sì, che non è una cosa banale. No, ma non sto dicendo che è banale, sto dicendo la no, domanda... No, io ripeto, ho lo stile di caduta. No, ma quello lo diceva Parenzo. Però attenzione, io l'accetto, attenzione. Certo, perché mica sono Beethoven, non mica sto dicendo che tutto ciò che compongo è no, per carità, io sono in vetrina, come ho detto prima, sono abituato alle critiche, certo, certo, certo, per 40 anni. Io le considero una cosa, sì, ogni film che ho fatto oltre 300, adesso oltre 300, non dico più o meno, sì, per 300 volte io qui a casa mia, nel mio salotto, nel mio divano, ho avuto ogni volta il regista del film in oggetto, sì, e avendo visto prima il film eccetera, io poi componevo i temi, il regista veniva a casa mia e ero sempre sotto esame. Senta, ma anche Scilipoti dunque è venuto a casa sua? No, Scilipoti non è venuto mai a casa mia. No, no, perché non è un regista, ah, no, e non è un produttore, no, è semplicemente un onorevole, un politico. Un politico. Comunque non è che non è venuto a casa mia perché non l'ho invitato, perché non c'è stata circostanza. Ma come lo conosce lei? Come l'ha conosciuto? Adesso non mi ricordo esattezza, ma l'ho conosciuto da settembre, ottobre. Da poco, insomma. Sì, dall'anno scorso, per una circostanza. Io contatto gente dalla mattina alla sera, forse in un, sì, contesto, forse qualche concerto, non lo so. Una cosa casuale. Una persona rispettabilissima, innanzitutto è un laureato, lei lo sa, no? Sì. È ginecologo, il dottore. Sì, assolutamente. Quindi sì, è laureato, sì. Con la quale si può parlare di tutto simpaticamente e cordialmente. Certo. Ha chiesto una cosa, se io l'ho sentito di fare, io ho detto sì, perché io scrivo musica, è la mia professione. Posso scrivere da un brano, come ripeto, per il Papa, sì, ad una cosa, diciamo, un po' più leggera, meno impegnativa. Invece no, per mia coerenza, no, tutto ciò che faccio, anche una marcetta, sì, per me è sempre impegnativo. Assolutamente, questo è giusto dirlo. Senta, ma da quello che ho sentito prima mi sembra che lei sia al piano, o sbaglio? Io sono a casa, studio dalla mattina alla sera. Ma come mi fa una marcetta, ma sono anche Beethoven. Mi fa due note del piano dell'inno che ha composto per il Movimento di Responsabilità Nazionale, me le fa al... È orecchiabile, elegante, tranquillo, non, sì, è banale. Ecco, quando lei dice non è banale, cosa si riferisce? Beh, la musica a qualche volta può essere anche banale, cioè se non ha una conseguenzialità armonica, se non ha una concezione melodica, una concezione, sì, perché qui è, per esempio il pezzo in sol maggiore, un pezzo di mole. Dominante, c'è una concezione armonica, è un pezzo, un brano, non è una. Ma com'è marcetta che fa? Lei lo sa anche cantare questa marcetta? No, io sono stonatissimo, faccio la la la la la la, come può cantarlo lei? Capito? No, no, certo, certo. Senta, ma sì, quando io ho detto prima sei ispirato a qualcosa, no? No, non c'è ispirazione. Non c'è, c'è una musica, che ne so, una cosa tutto originale, non c'è nessun tipo di ispirazione. È un inno, siccome io ho composto le musiche per le 5 giornate di Milano, tra tante cose, sì, per la Rai, in onda, due anni fa, per la regia di Carlo Lizzani, giusto? Sì. Carlo Lizzani, che è quel regista che è, cioè bravissimo, intelligentissimo, mi disse, stai 5 giorni a Milano, siamo nel 861, mi disse, senti, per quanto iniziare Pronti Via, i famosi titoli di testa, sì, non vorrei una musica subito originale tua, che poi dopo io avrò fatto un'ora e mezza, un'ora e cinquanta di musica originale, sì, cioè vorrei una cosa riguardante l'epoca classica, sì, Giuseppe Verdi, perché, sì, Giuseppe Verdi era lì. E i Lombardi alla prima crociata, dico benissimo, mi sono documentato la musica della sinfonia, il disco e tutto quanto, io su quella cosa lì ho fatto quella di la bemolle e l'ho ritrascritta esattamente come ha scritto Giuseppe Verdi, né non ho più né meno, sì, e l'ho eseguita come titoli. Su quell'atmosfera, su quel clima lì, mi sono poi respirato. Eh sì. Quindi non è, no, né ricopiato né niente, ma semplicemente ripreso quel discorso patriottistico. Ecco. Ma il fatto di scrivere per qualcuno impegnato in politica, eccetera, non le crea nessun problema, no? Come? il fatto di scrivere un inno per qualcuno che è impegnato in politica, dunque uno di parte, diciamo, non le crede. Ma è mica l'ho scritta per il signor Domenico Scilipoti. E per chi l'ha scritta? Per una cosa rappresentativa, così, per un gruppo, per un movimento, attenzione. Appunto, sempre di politica si tratta, insomma. Perché... No, per me, ma io non sono politico, sono... Cioè, lei i responsabili li conosce? Politista. Li conosce. Guardi, i responsabili? Come, prego? Li conosce, il gruppo dei responsabili, lo conosce, sì, quello di Scilipoti, certo. Ma certo, io sabato, l'altro ieri mattina era lì, entrato a Catania, certo. Addirittura lei è stato nominato presidente onorario. E sono onorato di questo, certo. Che c'è di male, secondo me? No, ma nulla, per carità, ma non c'è niente di ma male. Ma guardi, io non vedo, io conosco i politici, lei non ha idea, le dico solo una cosa, nel 1974, sì. A presente 74, sì. Io ho avuto l'onore, piacere di essere contattato, di frequentare, ecco. Sì. Allora, governatore della Banca d'Italia, Guido Carli. Guido Carli, dottor Guido, sì. Carli, va bene. In quell'occasione, io un venerdì sì, due no, due sì, uno no, eccetera, per anni, a Fontanella Borghese, io compararono, acquistarono un pianoforte appositamente per farmi suonare. Sì. E io la sera suonavo, però non è che facevo il piano bar. Ero invitato precisamente, sì. La signora Maria, la signora Maria era la signora Carli, sì. E lì io frequentavo la Presidente della Repubblica d'allora, sì. Giovanni Leoni e Donna Vittoria. Adesso non vorrei offendere, lei mi sembra ancora viveva, tutti, è inutile. Lei mi sembra addirittura, per carità, in epoche diverse, ma una sorta di apicella ante litteram. No, insomma. No, questo lo dice lei, io non conosco apicella, né non ero né apicella né Pirivicchi, ero no. Stelvio Cipriani. Io ho detto con tutto no, rispetto. Lei ha detto una cosa che a me non mi sta bene, io ero Stelvio Cipriani, sto dicendo che lì c'erano, sì. Presidente della Repubblica, Moro, Fanfani, sì. Andreotti, Almirante. Vabbè, lì c'è Berlusconi, con la picella c'è Berlusconi, insomma, non è che. No, non lo so, questa è una cosa che non mi riguarda, lo sta dicendo lei. Vabbè, ho capito, certo che lo dico io. O facciamo un'intervista precisa, no. Dedicata all'inno, se no io. No, per carità, ma Cipriani, no, intanto. Conosco tante persone che lei non ha idea, quindi. No, ma certo, ma figuriamoci. Però certo non le conosco, attenzione, non è che conosco tutti. Berlusconi lo conosce, no? No, personalmente no. Però suonerebbe per Berlusconi, sì. Certo, perché no? Io sono qua di. E io non ci conosciamo, ma se per ipotesi lei mi dovesse, sì. Dire Cipriani, la festa mia dopodomani, ipotesi, io non la conosco, non so, sì, sufficiente, sì. Viene, c'è un pianoforte, viene a casa, io prendo la macchina e vengo a casa sua a suonare. Senta, ma fare comporre l'inno per i responsabili, per il dottor Scilipoti, è una cosa che, vuol dire, lei ha preso dei soldi, no, per carità? Beh, stiamoci attenti, No, infatti no. Comunque no, forse no, ho esagerato io. Mica, una domanda, prendere i soldi non è mica un delitto, no. Io non ho preso la decisione tantomeno per fare la messa a Santo Padre, che ho lavorato sei mesi mattina e sera per scrivere la linea del verbo, sì. Io lavoro certe cose, io vivo campo come tutti gli altri, come lei, del resto, certo, tutti, certo. Vivo di diritto d'autore, la mia professione è quella lì che mi permette di vivere tranquillamente, sì. E poi naturalmente se c'è la schiena marcetta non è che uno chiede, non è no, no, figuriamoci, no, certo. Senta, la cosa curiosa poi è che, vedendo un po' quelle cose che lei ha fatto, la filmografia, no? Sì. Ci sono anche dei film soft, rosa, ma sì. I film rosa degli anni fine anni 60, 70. Porno soft, diciamo, no? Che ne so, orgasmo, no, nero, no, vedo, no, orgasmo. Ma quelli che seguono il buco della chiave, io ho fatto tutta la serie, a parte la polizia, la tecnologia polizia, ringrazio, sta a guardare le mani di casa, sì. Che aiuto tutta, no? Circa 40-50 di quelli. Sì. Poi ci fu, le dico tutto questo, attenzione, teniamo come traguardo, come diciamo divisione, il 1970, sì. Anonimo Veneziano. Tutto quello prima, perché Anonimo Veneziano era il 33° film, sì. Gli altri 32, sì. Ho fatto tutto, perché dovevo farlo, attenzione, ho fatto pure L'uomo che aveva la pistola, Mano Alza Gun, che Harry Mancini mi ha inciso la musica. Però qui vedo anche nel 74, vedo anche Paradiso Blu e Orgasmo Nero, insomma. Sì, ma sì, ma c'erano le donne mutanti. Ma questo Scilipoti lo sa, Scilipoti lo sa, no, che lei ha fatto tutto questo, sì. Ma non è interessante, non è importante, questa è una domanda stupida. No, ma sì, così per sapere. Senta, che Scilipoti viene a sapere se faccio Orgasmo Nero. Ma Orgasmo Nero era il titolo, perché per le persone un po' bamboccette pensavano di avere Orgasmo Nero. Poi vedevano le ragazze, al massimo forse, mi sembra, forse con i seni di fuori. Orgasmo Nero all'epoca, una donna nuda. Ho capito, Orgasmo Nero non è proprio un film per educande, insomma, no? Su questo... No, anche sì. per Guardoni, ecco, se vogliamo per Guardoni, per Guardoni, ecco. Io ho fatto Metti il diavolo tuo, Leva il diavolo tuo, i Decameroni, cose che facevano ridere. Sì, vabbè, confrontati con... guardando al buco della chiave e vedevano le ragazze che si mettevano, si toglievano le calze. Sì, confrontati con le cose di adesso. Certo, adesso certo. No, adesso non ho più fatto dei quei film lì perché non me ne frega niente. Adesso no, certo. Adesso non serve la musica di Cipriani, mettono un disco e si va avanti, capito? Va bene, Cipriani, la ringrazio. Il presidente del Movimento di Responsabilità Nazionale ci suona proprio alcuni, proprio per concludere di nuovo alcuni passi proprio al suo dell'inno di Scilipoti, prego. Proprio no, non ho capito. Lei se adesso ci accompagna alla pubblicità in questo modo, sempre col suo piano, ci accompagna con... No, questa è una cosa ridicola. Mettete il disco, c'è del disco. No, ma come ha fatto prima, quando no, ha messo... prima l'ho fatto perché era giusto che lo facessi. Adesso no. Adesso non faccio il birichino. Attenzione, no, io faccio sempre il birichino. Sono 40 anni che faccio questo lavoro, No, ma io lo volevo fare per concludere. No, conclude. Ma io mi sto proibendo. C'è la musica, c'è il disco, perché che? No, volevo che lei lo facesse live. No, vabbè, niente, non lo volevo. Io per concludere posso suonare Chopin. È meglio Chopin di quell'altro. Grazie. Traffico. Siamo qui, andiamo a Firenze. Augusto, buonasera. Buonasera. Dica. Ancora sulle barzellette di Berlusconi, ma solo per richiamare l'attenzione sul fatto che non è straordinario Berlusconi che racconta quelle barzellette. Quello che è da guardare, io ho visto il video, è l'atteggiamento degli astanti, le risatine, gli ammiccamenti, sta gente che salta in piedi, a gridare, gente che ti sembra di vedere un film di Franco Rosi, di Elio Petri. E quella è tutta gente che ha incarichi istituzionali. Andrebbe chiesto a loro come fanno a divertirsi e come fanno a lavorare. Però, scusi un attimo, in questo modo. Scusi un attimo, però, sì. Caro Augusto, uno può criticare il modo di fare di Berlusconi, succede da 15 anni, la barzelletta e tutto, però non è che si può fare i censori del fatto che intorno c'è gente che ride. Ognuno ride su quello che vuole, insomma. Non pensa che siano risate un po' forzate? Ma chi se ne frega? Non lo so se sono forzate o no, non sto lì a penetrare nel cervello delle persone. Lei ha mai lavorato in una multinazionale? Quando c'è il capo che... No, in una multinazionale no, però... Lo stesso ambiente, è una classe dirigente che è veramente triste. Va bene, Augusto, per carità, ma questo è il suo giudizio, eccetera. Volpe? Sì. Ma che altre barzellette ha raccontato Berlusconi? Ma le racconta sempre, anche questa frenesia di criticare Berlusconi anche quando racconta la barzelletta chi è di fronte ride. Prima di tutto c'è un uomo che ha un carisma straordinario, che l'ha portato a essere uno degli uomini di più grande successo del paese, quindi questo lo sappiamo. Qualche cosa no, riesce a trasmettere. Allora? E poi racconta delle barzellette, che tutto sommato sono le barzellette da bar, che tutti capiscono, è un uomo normale, un uomo del popolo, e la gente ride anche se l'ha sentita tre volte, perché sono barzellette vecchie come il cucco, che lui racconta bene. Vedere un presidente del Consiglio secondo te racconta bene le barzellette? Ma sì, racconta bene le barzellette, gli piace raccontarle bene, gli piace vedere le persone che sorridono, qualcuno magari si divertirà, qualcuno gli sorriderà. Ma quella sulla mela non è un po' volgare? Ma è volgare, vabbè, è volgare, è niente rispetto a quello che si dice normalmente anche sui giornali contro Berlusconi, che viene insultato in maniera straordinaria. Perché, sì, però perché sempre il benaltrismo? Sì, è volgare, però è volgare anche quello che si dice contro Berlusconi. È volgare, non è volgare, insomma, sì, è un po' volgare, va bene. È un po' volgare, Berlusconi è così. Ma non sarebbe stato il caso, insomma, di ogni tanto, per carità, dirlo a Berlusconi è sbagliato, ma non sarebbe il caso di fermarsi, cioè, nel senso che questa storia della mela, no, tu lo sai che poi circolano queste cose, no? Questa cosa della mela, annusarla, sa di questo. Guarda, io ti posso dire una cosa, tutti quanti pensano che ogni tanto un po' di maggiore sobrietà sia necessaria, e questo l'ho pensato anch'io tante volte, però d'altro canto Berlusconi è così, è sempre stato così. Dunque bisogna accettare cambierà. Questa cosa qui, basta, e non cambierà. E non cambierà, e piace per questo, perché è sincero, perché in questo suo modo di essere è naturale. Poi qualche radical chic dirà che è un po' esagerato, che fa schifo, che qui, che là, e qualcun altro invece riderà, però almeno è naturale, come sì. sempre stato. Io lo conosco da 14 sì, anni. Ma la natura è, dire, è vero, però la, non è che necessariamente cioè nella quando uno ha un incarico la naturalezza ogni tanto deve venir meno, in tutti i paesi viene meno. Se uno dicesse in pubblico quello che quello che dice in privato, come spesso naturalmente non sempre succede a Berlusconi. Beh, insomma, no, qualche problema si può porre, credo che questo sia stato uno dei problemi. Sì, però vedi, io sono convinto, certo, che ovviamente qualche un po' la lingua se la morde ogni tanto, anzi spesso, per la ragione di Stato, per il ruolo che ha, ma quando è insieme a un gruppo di persone, alla fine non di si un tiene, discorso, non si tiene. Non si tiene, ma non si tiene per dire delle barzellette, per dire delle cose che sono assolutamente appartenenti al lessico naturale, insomma, al lessico normale. Va bene, Massimiliano da Milano, voglio sentire Massimiliano da Milano, buonasera. Pronto, buonasera. Dica. Intervenivo su quello che diceva Cacciaro all'inizio della trasmissione, cioè questa vicenda della novità in politica, che mi sembra un non senso, quindi una cosa che non accade. Su Montezemolo, dice lei. Su Montezemolo. Su Montezemolo, ma in generale anche sull'idea del nuovo, nel senso che appunto Montezemolo mi sembra. No, io quando sento nuovo in politica mi vengono i brividi sempre. Cioè mi viene. Bravissimo. Il nuovo in politica non è un concetto talmente vago, vabbè, però Cacciari non è che parlava del nuovo in politica, parlava di Montezemolo. Volpe, tu che sei vicino a Berlusconi, eccetera, ma Berlusconi soffre di questa cosa di Montezemolo, ce lo vede come un avversario oppure non gliene frega niente? No, non credo assolutamente. Berlusconi soffrirebbe uno come Renzi. Renzi è uno che può far soffrire Berlusconi, perché? Ma non Montezemolo. Perché? Perché Montezemolo è secondo a lui. È come se presentassero, cioè tu hai l'asso di Briscola e presenti il 3. Vale molto, ma vale meno dell'asso di Briscola. L'asso di Briscola è Berlusconi, il 3 può essere Montezemolo. Cioè appartiene allo stesso mondo senza avere le caratteristiche di qualità, di popolarità e di naturalezza di Berlusconi. Renzi sarebbe un candidato che potrebbe mettere in difficoltà chiunque altro della, chiamiamola, vecchia guardia, anche così popolare e importante come Berlusconi. Ma il PD non avrà mai il coraggio di presentarlo, perché manda a casa prima i suoi e poi casomai anche Berlusconi. Mentre Montezemolo non solo rappresenta un mondo ancora più chiuso di quello di Berlusconi, ma francamente non è di nuovo, è pieno di conflitti di interesse. Vabbè, adesso di non apriamo il discorso Montezemolo, altrimenti ci porta lontanissimo. Lo apriremo sicuramente nei prossimi giorni oppure quando sarà il caso. La musica ci porta alla conclusione della Zanzara di oggi. Grazie a Volpe Pasini per questo collegamento al volo dalla sua macchina, non so dove sia. E Gianfranco da Milano, ci sentiamo domani. Massimiliano da Milano è quello con cui abbiamo parlato prima. La Zanzara torna domani 18:30. Ciao. La Zanzara, il titolo più di merda del mondo. Soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello. Soltanto tu. Ricordati che devi morire. Come? Ricordati che devi morire. Va bene. Ricordati che devi morire. Sì, no, mo me lo segni proprio. C'è una cosa. Non mi preoccupare.